quello ce l'aveva prima un amico mio, capito? Lo guidava un amico mio, adesso non so chi ce l'aveva come autista. Questi portano la frutta, la verdura qui al mercato, a Sassari. A Sassari poi ne scaricano lì alla Cerisisa, perché sicuramente stanno alla Cerisisa, perché fa anche lo scarico alla Cerisisa, e la verdura che portano per la Cerisisa e la frutta, sono questi salamone che portano loro. E ne arriverà anche dall'altra parte, però non lo so cosa sia successo, si è rovesciato e boh. Rovesciato e rovesciato di brutto pure. Se si poteva far male qualcuno. Va bene, va bene, non c'è successo niente. Ripetito da Giuseppe. No, comunque per la cosa che dicono che si è staccato il coso della ralla e niente, spaccandosi quello praticamente ha sbandato e ha perso il controllo, dai, si è rovesciato per quello lì. Mario, così ho sentito anch'io, dovrebbe essere causa di sta corralla dal trattore e perso tutto. Io sono passato anche questo pomeriggio per dare un'occhiata, visto che devo fare quella strada, ed effettivamente lui è ancora lì e nonostante tutto sia i vigili del fuoco che la stradale l'hanno lasciato in una posizione che non lo so, secondo me è anche un pochino pericolosetta, dai. Scusate un attimino, ma se si sgancia il rimorchio, il trattore non invece il trattore è anche tutto distrutto. Io l'ho visto, sono passato, c'era il trattore tutto distrutto. K Gigi Vulcano, il trattore distrutto sulla destra, parte passeggero. E niente, non lo so, così mi hanno detto, attenzione, così sto dicendo, perché io non l'ho visto. Ho sentito il mio collega che era di rientro da Nuoro, quando è passato ha visto i vigili del fuoco che ci stavano lavorando e tutta quella storia lì. Però noi quando eravamo in modulazione, infatti anche Mario ha confermato poco fa, e a noi ci è stato comunicato che è stato un distacco della ralla. Se poi così non è, Gigi, non lo so, perché ti ripeto, io non l'ho visto la sera e niente, altro non posso dire. Sì, non si stacco dalla ralla perché come si è girato il rimorchio, poi l'ha sganciata, no, dal trattore, giustamente nella tracciata, per forza, come si è girato, ha perso il controllo il rimorchio, che si stava ribaltando, vedi che è uscito anche il coso del frigo, la cintura tutta del frigo, e si è messo a ruota in alto il rimorchio, era proprio girato a ruota, con le ruote in su, giustamente ne straccia dalla ralla, non ha rovesciato perché forse il trattore non l'ha rovesciato, ma come si è alzato il rimorchio, mi ha tracciato dalla ralla, capito? L'ha sganciato dalla ralla, capito? Capito come è successo, come può succedere? Così può sganciare dalla ralla. Quando si solleva il rimorchio, si sta girando il rimorchio nello straccia, no? Girandosi il coso, poi c'è quel perno, il perno non è che regge più di tanto, nello straccia e poi c'è quella molla che tiene e ne ha tracciato tutto, capito? Ma magari sarà un po' veloce, si è fidato e l'ha fregato lui, sai, perché quella fregami quell'ingresso. So, se si sgancia il coso cade a muso a terra e si ferma, non si ribalteggia e ci muore la caccia da sopra, no? Quello è come se l'hai girato, hai capito Salvatore? Se l'hai girato dalla società che è entrata nella curva, hai capito? Oh Gigi, scusami un secondo se intervengo. Intervieni, tanto stiamo parlando, non è che io ho visto quello che ho visto io, capito Giuseppe? Quello che ho visto io quando sono passato, ho visto il trattore così, tutto storto, vuol dire che ha portato il rimorchio, ha portato quando si è girato sopra la ralla, hai capito? Ha portato sopra il telaio del rimorchio e se l'ha tracciato. Vai Giuseppe. Ti volevo dire infatti che questo qui incidente di Salamone mi ricorda molto l'incidente che c'è stato lì dopo appena prima della discesa di Saccargia. Non so se l'avevi visto quell'articolato carico di patate surgelate che è andato fuori. È positivo, l'avevo visto anche quell'altro autista, aveva preso la gamba una volta lì. che non ce l'ha fatta in quella curva, che quella avevo visto io, aveva perso la gamba in incidente a Guadarrasi. E vabbè, a volte sono cose che succedono, purtroppo chi va a cavallo è soggetto a volte a cadere, dai. Facciamo girare, c'è Mario Falchetto e tutti i parcheggiati. Riprendi Mario. 2 minuti di bianco per me. D'accordo. No, io appena che... Allora, la verità è successo così. Che io la sera stavo lavorando. E siccome con me c'è uno che abita a Poaghe, e sicuramente è passato qualche parente o qualcosa al momento che è successo l'incidente. E gli hanno telefonato dicendogli di passare l'avviamento e uscire dall'ospedale perché lì si era capovolto un camion e c'era un incidente. E io, come sono arrivato a casa, ho acceso l'apparato e ho sentito per radio dicendo che si è sganciata la ralla e l'autista praticamente, tu lo sai che quando una cosa è in forza per tirare una cosa pesante perché è da carico, e giustamente, e niente, come si è sbaccata la ralla, dice che ha perso il controllo l'autista e si è ribaltato insieme al rimorchio praticamente. Tutto quello che ho sentito dire io alla radio, ma questo qui l'ho sentito mezz'ora, tre quarti d'ora dopo che è successo l'incidente. E perché ti è staccato, come si è girato il rimorchio? Perché il trattore non l'ha ribaltato. Il trattore non si è ribaltato, hai capito? Si è ribaltato il rimorchio, capito? Però come si è alzato il rimorchio? Ne ha stracciato, ne è uscito dalla ralla, hai capito? E è andato per conto suo, giustamente, si è girato e via. E il trattore ha continuato girandosi, è andato a sbattersi contro, per fortuna non c'era nessuno, no, non c'era altra gente, se no è un casino. Ma è campagato, comunque, è bene ciò che vuole che finisce bene, perché malgrado tutto, diciamo che in quel momento non c'era nessuno e non è stato coinvolto nessun altro nell'incidente, altrimenti sarebbe stato un bel guaio, Poi è successo anche a me venerdì, a me mi è successo, anche a me mi è andata bene venerdì, no, guai. Ho trovato la 131 deserta, io ho scoppiato il gommone, mi sono partito tutti e tre parafanghi, compresi i tubi che tengono i parafanghi, tutti e tre i tubi, ma sono volati in mezzo strada la 131, non sai come, i parafanghi e tutto quanto, se stava passando qualche macchina, guai, per fortuna in quel momento lì non stava passando nessuno, capito? Questo è tutto, no, giovedì sera, sto parlando sempre giovedì sera. E in capo, perché venerdì c'era la neve e tu non hai viaggiato. Sì, ma c'era già, ma com'è la neve, capito? Che ho dovuto cambiarla sotto la neve, nevicando quella gomma, capito? Poi si è venuta la polizia, per fortuna che... perché ce l'avevo al lato, in carreggiata, dai. E mi sono dovuto fermare in salita di Macomere, nella corsia di marcia, e la gomma era dalla parte di sinistra alla corsia di sorpasso, dai. Ho dovuto cambiarla lì la gomma, capito? Ed ero sul posto dove passavano le macchine, per fortuna è venuta la polizia, prima che mi mettessi a fare qualcosa, e sono messi loro dietro e con i lampeggianti seduti in macchina perché c'era freddo, perché mi era freddo veramente, che ghiacciava veramente lì a Macomere. Poi la sera sono rimasti tutti bloccati lì, giovedì sera sono rimasti tutti bloccati a Macomere, non sono passati, quelli di Usino, di Carlini sono rimasti bloccati lì la notte, hanno dormito lì e non ce l'hanno fatta rientrare. E niente, me la sono cambiata, sono usciti in pezzi, guarda, tutta la corsia ho spazio di pezzi di parafaghi, di tubi e di cose. È andata bene, anche quella è un casino, ma se trovavo la macchina sorpasso guai. Cappagato si conferma. No, io guarda, la mattina presto quando ho acceso la radio, questo qui il venerdì mattina, li ho sentiti che c'erano molta gente, addirittura che erano fermi subito dopo Basanta, il salitone che c'è subito dopo Basanta, c'era gente che era ferma da giovedì alle 7, poi sono riusciti a ripartire piano piano, sono arrivati, diciamo così, alla discesa di Siligo e si sono nuovamente bloccati perché non faceva continuare. E venerdì c'è stato, tra giovedì notte e venerdì c'è stato un bel caos lì a Cappella. E quelle che hanno dormito lì, c'era Ivano, quelle di Carlino, un paio di Carlino sono rimaste lì a dormire, e con quei trattori che non c'era, come si chiama, il scaldamento ottono, quello che ci ho visto, è rimasto lì, e sono rientrati qui a Sassa, li c'erano fatti a rientrare, dalla notte sono rimasti bloccati lì, alle 11:30 sono arrivati la mattina qua a Sassari, sono rientrati alle 11:30, dalla notte che erano bloccati lì a, ma com'è? Allora già li ho sentiti tutti io perché poi io non sono andato manco a lavoro perché ho telefonato al grande capo e mi ha detto no, rimane in casa perché intanto anche qui a Pedaneda c'è casino, che però io lo sapevo già perché addirittura c'erano quelli che lì nel deposito vicino a quello dei tram a Cani hanno molti gli si è messo l'articolato di traverso e c'era un bel di ghiaccio e non facevano manco a uscire. Tutto qua, è così che lo sapevo già che c'era caos. E niente, però poi per fortuna è uscito il sole e ha messo un pochettino le cose a posto, perché poi la situazione si è aggravata, perché poi ha ghiacciato anche lì a Coso, vicino al rifornitore, dai, come si chiama, e adesso non mi viene. Comunque subito dopo le gallerie, anche lì era ghiacciato e niente, perché io stavo accompagnando anche a Geppone e anche lui l'ho accompagnato fino al bivio di Coso, come si chiama, di Florinas, e poi l'abbiamo perso e non sapevo che cosa era successo perché poi l'abbiamo perso anche con la radio. È positivo Mario, che stavo messo a caricare una batteria della moto che forse interessa a qualcuno, questa moto che ho qua in garage, e stavo ascoltando e l'ho messa a caricare, la stavo avvistando, la stavo mettendo dai, nella moto. Riprendi Salvatore, sono in ascolto, sto avvistando questa, che poi me ne salgo su a casa, sto avvistando questa batteria, la sto piazzando nella moto, che rimango sono in ascolto qua. Salvatore non c'è, chi ti è rimasto? Falchetto. Ha detto Falchetto, lascia stare il rosso, vieni qui. Cappa di Rogino, siamo a ca. Carissimo. Ciao Natalino in compagnia di Vulcano, di Mario e Giuseppe. Avanti per i saluti, Mario. Forse l'ho salutato prima di te sulla modulazione, vabbè, comunque magari non ha capito niente perché sicuramente ci siamo accavallati. Ciao Natalino. Ciao Mario, ciao a tutti, dai, così non sbaglio, sennò qua magari qualcuno si offende, invece io saluto tutti e siamo a dama, gara. D'accordo, c'è Luigi che sta piazzando la batteria nella moto e niente, lei in ascolto. C'era maestrale e niente, credo che si sia sentato. Tutto qui. E cappa. Vabbè, io ho già cenato, ho preso il caffè con quell'affare di lusso e sono venuto qua. Ricco! Giuseppe ha ripreso, avanti Giuseppe! Grazie Mario, eccomi qui di nuovo. Ma volevo chiedervi una cosa, io comunque ero sempre in ascolto, ma il buon Pomponio che stava l'abbiamo perso, Mario. Sicuramente è impegnato. Comunque, Giuseppe, quando parli all'inizio, quando tu inizi a parlare, che schiacci l'importante, io sento un leggero innesco che mi conferma anche a Palchetto e a Natalino, perché non vorrei che mi sbagliassi. Si conferma, c'è un leggerino innesco per la schiacci l'importante. Avanti Natalino. Sì, infatti si conferma. Evidentemente io c'ho il microfono troppo vicino all'apparecchio. Capito? O è troppo alto di volume e non lo so forte, allora innesca. K di positivo. Adesso sicuramente l'innesco è sparito. È sparito. Confermi Mario? No. Attenzione Natalino che hai un innesco. Attenzione Natalino innesco. Datemi conferma anche gli altri K. Va bene. Ah, innesco ciò. Non penso. Ma devo lavorare e vedo un po' com'è la situazione, dai. Vi saluto tutti in generale, Falchetto, Giuseppe, Natalino, chi non l'ho salutato perché ero in ascolto, Mario, Salvatore mi pare che sia sensato, dai, io fate buon proseguo di tutto, io per il momento vi saluto e vado su a casa, dai, ciao a tutti. Ok, dai, riprendo io, salutoni Gigino, dai, ce la riascoltiamo tutta domani, se coincide. Riprendi Mario per i saluti e poi girare. Ciao Volga, buona carica, buon tutto e niente, ce la riascoltiamo alle prossime. K di positivo, vai Natalino. Ciao Gigi Volga, alle prossime, vai, buon tutto per domani. Giuseppe, avanti per i saluti, K. Sì, grazie Natalino. Ciao Gigi, buon proseguimento di serata, ci sentiamo alle prossime, dai. E buon tutto e buon trabacco per domani. Ciao Gigi. Ciao. Comunque Mario, domani mattina io esco alle 6:15, e dice la Gimpone, io esco alle 6:15, a deposito. D'accordo, sarà fatto. Ciao a tutti. Ciao, sarà fatto, Bocca, sarà fatto, volte l'accetto, ciao. Ciao lui. Ciao, Salvatore, che sto andando su a casa, dai, tu che sia sensato, il discorso è un po' lungo con Mario, sarebbe giustamente, ho arrivato gente, o cosa sia sensato un attimino. Ciao, Salvatore, pure a te, dai. Già, dai, se al limite cerco una vicina al mio, una di queste stelle che trovo un po' libero, dai. Ok, dai, ciao Luigi, qui ci facciamo una chiacchierata in verticale, come si dice nel gergo vostro. Ok, no, ho ricevuto una telefonata, era un telefono, lo ascoltavo, ma era un telefono con l'altro vecchio. Ok, va bene, buon resti e diciamo, ci sentiamo con quando ti vuole bene. Ok, ciao Natali. Ciao, sono Bartolo. Ma perché è malato, torna? Perché me l'ha detto il padre, sono passato e mi ha detto che è a letto, che... Ma per altre cose con lui, ci ha preso magari qualche colpo d'aria, cioè con questo... Allora, succede questo, che non ci vuole niente, fa il freddo, va attaccato un trasporto, succede anche da noi, no? Si forma la corrente, magari ti trova sudato qualche e ti prendi qualche accidente. Purtroppo, cose che capitano. Va bene, dai. Non so chi c'è andato via, chi c'è andato altra gente, c'è andato via nessuno, ma non riprendi tutto. Passiamo sempre soliti. È andato via Luigi, è entrato Natalino, tutto qua. Beh, succede, i colpi d'aria, poi tu lo sai meglio degli altri, che basta che apri una porta, la lancia mette sempre quell'altra aperta per via del passaggio, basta che apri l'altra fa corrente d'aria e se ti pizzica bene, K. E cose che succedono di questo periodo sono, non è niente di particolare. Vai avanti Giuseppe. Mario, dai, spero che sia sparito questo piccolo innesco, e ho provato a staccarmi mentre voi stavate modulando e mi sono spostato un attimino su un altro canale e spero di averlo risolto, dai. No, Giuseppe, quando metti la modulazione, cioè l'innesco, poi leggermente si attiva. Prova a staccare quell'ecco. Avanti, così va meglio. Così non c'è niente, perfetto. Buttacelo via quell'ecco, Giuseppe. È messo l'innesco, vero Salvatotto? Perfetto, anche la radio è molto più chiara, la radio, c'è qualcosa che su quell'apparato, ma cos'è? Una scatola ecco separata? No, qui, scusami un secondo, Salvatore. Prego, prego, Giuseppe. Come ha cambiato la radio senza la scatola, senza l'ecco? Attenzione Salvatore, riprendo un secondo io. Sì, adesso l'ecco l'ho abbassato. Come riuscite a copiarmi così? Da parte mia benissimo, non c'è innesco, la radio più chiara. Vai Mario. Si conferma. K di positivo Mario. Vedi un attimino così come riesce a copiare Giuseppe K. E così c'è nuovamente l'ecco, e niente, su questo passaggio in esco non ho sentito. Attenzione Mario, per Giuseppe Tornado, e in esco allo schiacciamento della portante? No, in questo passaggio no, in questo passaggio niente. Dai, comunque io adesso metto tutto così a zero e spero di aver risolto il problema. Grazie Salvatore per la dritta, finalmente sono riuscito a risolvere, perché stavo perdendo anche un attimino la testa in mezzo a tutti questi pulsantini e tastini. Capa Giuseppe, guarda, quello poco fa di riesco non ce l'avevi più, però poi il mio orecchio, ma la radio la preferisco senza l'ecco, perché l'ecco non è una radio pulita, senza l'ecco c'è una radio perfetta, poi se vuoi usare l'ecco, per carità, usa l'ecco pure. Natali, tu cosa dici? Un attimo, c'è un telefono. Papa, ok, dai conferma io. Positivo, no, è meglio così, è più pulita la radio. Confermo tutto ciò che avete detto, sia tu che Mario, sì, è così. Lascia tutto com'è Giuseppe e non toccare più niente. Mi date conferma che non c'è nessun innesco come schiaccio la portante adesso? Negativo, io non ne sento, tu Mario ne senti? Brava. Vedi un pochino Mario se è tornato all'innesco dietro di sé. No, negativo, è tutto pulito, chiaro e limpido. Anda bene, lascialo così e vai alla grande. Vai Sabato. Confermo anch'io, no, l'innesco non se ne sente adesso. Ma Gianni sempre mangiando sta. Si è settato perché ha detto che gli si è aperto il buco dell'ozono e niente, è dovuto andare a mangiare qualcosa. Però a questo si avrebbe mangiato un bue. Vuol dire che sta cucinando, magari, sta cucinando e quindi il tempo lo sta prendendo anche per quello. Ma non vuoi dirmi, se riprende, quanto va poco con l'America? Ciappa di positivo. Guarda che mi serve il titolo, perché uno di questi giorni, ma giusto ho una serata, perché voglio provarlo la mattina presto, quando stiamo accompagnando i nostri amici, tra i quali Vulcano, perché così lo accompagno solo Sino, Macomer e qualcosa. qualche volta sino al video di Morone e volevo provarlo a vedere se arrivo oltre oceano. Scappa mai, anche se ci mancherebbe, tu la porto domani mattina se direttamente. Me la porto appresso io domani mattina, lo salgo su. Se vuoi salirò su, così domani no, perché domani non si può. Però dopo domani, quando sta partendo l'amico Gigino e l'amico Giuseppe, voglio vedere se dove mi faccio sentire. No, anche perché io la mattina, verso le 5, di solito accendo e accompagno il Gippone e tutti quanti gli altri amici là. Così volevo vedere se con l'aiuto di Gigetto riuscivo ad andare un po' più lontano. Ma ci mancherebbe Mario, no, io adesso io ce l'ho qua sotto, non lo so dove è la mia postazione, lo metto dentro una busta e lo porto appresso, così tu domani quando passi per fare anche quelle altre cose, lo prendi e fai le prove. Ci mancherebbe, ma io sono convinto che tu con quello li accompagni per un bel pezzo, ma per un bel pezzo, un grande pezzo li accompagni. Ma guarda, con questa radio che sto chiacchierando ora, lo accompagno sino a Macomero tranquillo e a volte lo accompagno anche un po' più in giù sino a Morone, però poi giustamente cosa succede? Che lui c'ha i colleghi vicino e le sovramodulazioni mi coprono un po', capito? Se no magari l'avrei accompagnato anche più lontano, però lui a me mi perde per causa delle sovramodulazioni dei colleghi. Lo volevo provare così, intanto di mattina presto non disturba nessuno. Sì, basta stare attenti, insomma, quell'ora insomma non penso che disturba nessuno. Sto dicendo, è quell'altro di stato, niente, l'ho portato già a farlo vedere. Ho un negativo mio, adesso intanto è caldo, provo a farci un passaggio con quello là, là. Perché Pomponio gli ha messo nelle levrette appena di GRC, gli ha smosso un poco con l'apparato spento, poi l'abbiamo acceso e sembrava che andava bene. Adesso ti faccio un passaggio così me la conferma. Sì, perché usano quell'altro, scusa, sicuramente non uscirà peggio di questo, no? Anzi, sicuramente uscirà meglio di questo. Usalo, così vediamo un po' come stai andando, anzi ti do anche un controllo in questo passaggio. Va bene, quanto stai a fare il passaggio all'altra radio, facciamo riprendere a Giuseppe, dai, riprendi Giuseppe. Ecco la partita un attimo. Attenzione, sei duro, ecco. Avanti. Ciao maestrale, buonasera, buongiorno da questa. Un salutone agli altri amici che ci sono in ruota, dai. Buonasera Bulldozer, mi hai sentito? Sei in compagnia mia di Giuseppe, di Mario e di Franchetto che ha fatto un attimo di bianco. Vediamo un po' che Mario stava un attimo cambiando l'apparato. Ecco, mi ha lanciato a Giuseppe, vediamo un po' se... Giuseppe ci sei? K Salvatore, Giuseppe è sempre qui in vostra compagnia sul 21. E ben risentito Massimiliano, è rientrato sul 21 e ti rilancio subito il mic per Salvatore. Dai. Positivo, Salvatore, l'abbiamo salutato, salutone anche a te Giuseppe, buonasera per riascoltato. Per rilanciare a Mario, vediamo un po' se ha cambiato l'apparato. Avanti Mario. K Bulldozer, ben rientrato KK, datemi conferma, come sta uscendo questo giocattolino? Mario, se ti posso rispondere io, immediatamente qui sta arrivando a bomba, K. D'accordo, sono contento, mi fa piacere. Sabato, tu come mi ascolti? Benissimo, benissimo, però lei ce la fare qualche controllo, qualche così diciamo con calma, non adesso perché adesso siamo in ruota, magari ce la fai, bisogna livellare un po' il microfono, però il segnale è buono, c'è i picchi positivi abbastanza buoni, per me va benissimo, adesso ti mando Massimiliano e per lui ti va al controllo, avanti Massimiliano per Mario. Io Mario, dai, la radio un po' gracchiante io ascolto, è la verità, magari però ma il problema del microfono comunque è buono, lo segnale buono, vabbè, la radio non se ne parla perché diciamo che siamo vicini di conto. Niente, un piccolo accorgimento con quel microfonino secondo me, confermi Salvatore? Sì, sì, tanto cosa hai detto, magari bisogna regolare un po', un pochettino le mic gain, bisogna un pochettino, scusa Mario, stai usando il compressore ce l'hai inserito? Ascolta, l'ultima cosa e poi facciamo girare perché poi ci impegniamo tutta la ruota, so. L'MC60 c'è attaccato? Se non parla. Controlli su che frequenza ce l'hai l'MC60, c'è un tastino sopra, guarda che sono del posizionato. No, sopra ce ne sono due di tastini. Vabbè, uno c'è scritto 50K e c'è scritto 500, non l'hai messo? Guarda così come mi ascolti. È migliorato, va sul 500, così l'hai spostato su 50K adesso? Kappa. Ha cambiato già da giovanotte. Confermi Massimiliano. Positivo, positivo, adesso non c'è più quel cracchiante, ma la modulazione è perfetta. Sì Mario, guarda moneta adesso sì, va benissimo. Bella stereofonica, pulitissima, non ha radio, va benissimo. Ma è cappa, sono contento, dai che vada bene. Tutto qui. Cappa Mario, poi si può fare qualche altra regolazione, lo facciamo uscire ancora meglio, ma adesso se no stiamo lì noi due facendo ping pong, lasciamo a parte gli amici. Ok, comunque hai già migliorato tantissimo, usa quello, lascia per gli altri, fai una cosa, metti da parte, dimenticateli, usa solo quello, ma e non sbagli. Giuseppe, andiamo avanti per Mario. Sì, cappa. Io Mario lo sento sempre bene, nonostante tutto. Miglioria qui nella mia postazione, devo essere sincero. Non ne ho sentito perché già mi arrivava bene di radio, proprio bella, pulita. Niente, direi una bugia se direi il contrario. Mario, mi fai un passaggio per gentilezza? Guarda così, 1, 2, 3, prova, cambio passo. Mario, confermo quello che ho detto poco fa, una cartolina sia di Santiago e la radio qui nella mia postazione è da incorniciare, cappa. Andrà bene, riprende Massimiliano. C'è stato una portata, avanti. Anche voi ti dico, purtroppo noi abbiamo questi birichini qua e non ci facciamo ascoltare più di tanto, non vi dica. È una scherza comunque. No, è perfetta Mario, è una bella radio. Comunque anche quella di poco fa era bella lo stesso, non è da mettere da parte. Oh Mario, anche l'altra è una scherza, va bene lo stesso. Ok, vediamo un po', si è rientrato Falchetto, se ascolta qua Bulldozer. Se Falchetto non riprende vuol dire si è imbriagato o si è colto. Ok, dai, maestrale. Cappa, sì. No, sai cos'è, poco fa lui aveva c'ha due frequenze l'MC60, poi è su due, e quindi ce l'aveva spostato sull'altra, sai cos'è, è riconoscibile l'MC60, quando sai su quell'altra si dà quell'aspetto, come diciamo, un po' gracchiante, poi magari se lavorando sul mic andiamo ancora, si può ancora migliorare ancora di più. Ok, vediamo un po', Gianni, hai finito il buco, l'hai tappato? Cosa ci vuole per coprire quel buco, Mario? Guarda, lui a quest'ora si avrebbe mangiato un bue, ma sicuramente si sta mangiando un elefante. forse è aumentato, che peggio. Vabbè, renditi conto, 1,85 m per 2 metri largo. Se continua così la larghezza aumenta, mio Massimiliano. Ehi, ma se finito con un cannavo. Se continua così si vede il figlio del posteriore anteriore e si vede direttamente il posteriore. Che cavagliava. Ok, là, riprendi, Giuseppe. Ah, anche per te è complimenti, ma lascerò, va bene. Di positivo, amico Massimiliano. Io invece saluto così per Vela 1. È rientrato perché ha avuto problemi di contatore a casa e dice che gli è mancata di colpo la corrente e niente, ha controllato la spina della lavatrice, dice che era quella che gli stava dando problemi. Però poi ultimamente nel giro di 10 minuti gli si sono bruciati 2 fusibili del baracchino e ancora non è rientrato, mannaggia. E io vorrei provare a chiamarlo o al limite se non risponde lui e se abbiamo Antonio Bombolo che ci può dare qualche notizia, perché insomma adesso è già da io penso una mezz'oretta buona e Mario mi può correggere se sto sbagliando. Cappa, no, è così già. Ma sicuramente stava controllando tutto quanto quello dell'impianto, perché lui ha detto che oggi non gli quadrava, che c'era qualcosa che non andava. Cappa di positivo, dai Mario, io ci tento. Vela 1, se sei alla foto, magari se hai il portatile acceso, fatti sentire, magari se hai bisogno di una mano io mi posso anche avvicinare senza nessun problema per darti una mano nel controllare l'impianto di casa. Oppure Antonio Bombolo, se sei all'ascolto riprendi tu, avanti. Ma se non mi dispiace, dai, prima di che riprendano loro, riprendo io un secondo per salutarli, perché io sono arrivato, dai. Mi dispiace chiudere così senza salutarli. Ok, da parte mia, QRT, in parcheggio. Adesso vediamo un po' di fare una carichetta, dai. Se coincide, a più tardi, se no, un salutone a tutti, dai. Se rientrano a me, salutatemi da parte mia. E tutti gli ascoltatori che ci sono qua, dai. Un roller QRT per me. Ciao, ciao. Ciao Bulldozer, buona carica, buon proseguo di serata e niente, tutto a più tardi se coincide, se no alle prossime. K di positivo. K, ciao Massimo, buon correnti e buona carica. Vai Giuseppe. K Salvatore. Sì, Massimiliano, ciao, buona carica, buon tutto, buon QRT e buon inizio di trabacco per domani. Dai, cordialità e naturalmente Massimiliano, una stretta di mano come sempre. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Anche tu sì. Questa che arriva portante, un faccia a bassa, sembra che qualcuno che vuole entrare ma non riesce via di... Ma sta uscendo di radio. Ok, non è importante se sei tu. Salvato, posso intervenire io? Secondo me è Antonio Damuros a casa di Capri 2, perlomeno un mio modestissimo parere, è probabile che mi sbagli. Ma sì, hai ragione, penso lui. Aspetta, perché comunque se sei tu, dai un colpo importante. Oh, vabbè Giuseppe, se lui che entrò là. Ma c'era il telefonino, c'era che fa, era il telefono. Tratta di finta questa telefonata. Attalino sta facendo l'amore al telefono. Attenzione Mario, prova a dare tu un'attenzione a Pomponio, visto che hai un turbo nell'antenna. Provaci tu a chiedergli un colpo di portante e vedere se riesci a copiare te Mario. Fai la gentilezza, così vediamo un pochino se questa portante riusciamo a capire di chi è. E via Kappa, attento Pompucu, se sei all'ascolto. Con Capri 2, dai un colpo se sei tu. Cos'è? Non risponde. Sicuramente è intento a grandi lavori. Capri positivo, amico Mario. Non lo so, anch'io ho notato questi colpi strani di coso, di portante, ma non penso che siano in zona, perché io qui l'ho registrata molto bassa. È vero Salvatore, a te come è arrivata? A far confermo, a me è arrivato a Santiago 3, non c'ho qua me, stanotte, e quindi l'ho visto proprio bene che è un colpo importante, ma sembrerebbe qualcuno che sta provando, magari è lui che sta riparando, sta facendo le prove, vabbè dai, Giuseppe, penso che se riesce a mettere a posto tutto, entrerà per un controllo. Tra l'altro, che cosa stava facendo a Capri, a casa di Capri? Cosa gli è successo? Qualche problema? Cavolo Salvatore, a Capri più di un problema, gli si sono bruciati due finali, gli si è bruciato il baracco e tutto il valvolare e tutto l'ambaradamme, figurati se non gli è successo niente al povero Capri 2, mannaggia. A me qualche 15 giorni fa arrivava qui che era un amore, infatti tutti gli avevamo consigliato non toccare più niente per l'amor di Dio. Io addirittura gli volevo comprare un tubetto dell'Attac per bloccargli i pomelli di quel paracchino. Invece poi l'ultimo valvolare che ha attaccato come lineare gli è scoppiato anche quello. Mi hai capito Salvatore? Sì, ma ho copiato anch'io bene. Ci abbiamo anche parlato. È strano, anzi l'ultima volta abbiamo aumentato anche il segnale del radio. Magari qualche vabbè, bisogna vedere, o se aveva stazionare lui e non se ne accorgeva, perché partire così tutti insieme, Giuseppe, è molto strano, partire il finale, partire il valvolare, il valvolare del lineare, insomma è strano, o lui c'aveva un rientro di frequenza, non se ne è accorto. E cappa di positivo, vedi, adesso hai detto la parola magica senza sapere niente. Io ho detto la mia, Salvatore, ma la mia modestissima, il mio modestissimo parere. Siccome il buon Capri 2 ha l'antenna che diciamo che è quasi coricata sul tetto, in pratica ha i radiali che stanno toccando alle tegole, figurati tu che rientro a lui di segnale nei suoi apparati. Allora si spiega molte cose, si spiegano Giuse, ma pure lui se doveva accorgere, sta bastando che non c'aveva uno strumento che gli misurasse le stazionarie, oppure un tacometro per vedere quante volte stava buttando fuori, è strano, vabbè, c'è Antonio, glielo controllerà, senz'altro troverà il motivo perché è successo tutto questo. Ok. Franco è rientrato, sì? No, ragazzi, Franco è rientrato. Vai Mario, ripeta la tua e fai girare, vedi un pochino se è rientrato qualche altro. Io sono sempre qui. Sono sempre qui che vi ascolto e niente, dai. Andrà bene. No, è che non posso dire certe parole, però Giuseppe, se Sarese lo capisce, fa ad esempio il vocurente l'uguro di puntini a Rio, perché l'apparato quando l'ha preso funzionava bene, era un po' massino di radio giustamente dovuto che c'ha l'antenna coricata sul tetto, che quello, che quell'altro, però meno male lo ascoltavamo. C'è lui da buio e dice buono, è furugia e finisce che gli succede il guaio. Perché anche ieri, quando gli dicevamo di lasciare tutto, ogni 5 minuti già andava e tornava a buscurare tutto canto. Cioè, l'apparato è fatto per usarlo, non per buscurarlo dentro. Ma che apparato aveva Mario? E ha comprato un altro apparato, adesso il nome non me lo ricordo, gliel'ha venduto Principe, ha venduto dei microfoni a Doppio Room, e poi è rimasta ancora qualcosina, ma niente di eccezionale. però lui l'apparato l'ha portato via, gli funzionava bene, gli ha collegato il microfono, gli aveva collegato tutto, poteva lasciarlo così semplicemente. E invece busuleggia, busuleggia, brucia tutto e da qui se la fa tutto. È K di positivo, Mario. Io sono, guarda, perfettamente d'accordo con te, perché le parole che hai detto, guarda, non ne sforano di una virgola. E niente, tanto di cappello a quello che hai detto, perché rispecchia solo ed esclusivamente la verità. Ma qui, principe, sai cosa sta dicendo nella venduzzo? Eia. Ma sai che c'aveva qualche portatile della 27, no? Qualche palmare, no, Mario? Guarda, non lo so, perché questo qui dovreste chiedere a Pomponio, perché tutta la roba che aveva l'ha portata da Pomponio, perché sta sbolognando un po' il tutto. Siccome lui non vive più qui a Sassari, qui a Sassari viene solamente per fare visita ai genitori, però lui vive a Urbia e lavora con i Bulma, così che sta facendo un po' fuori tutto quanto, tutto lì. Lei nella stazione Urbia non so poteva piazzare, perché non c'è nessuno a Urbia. No, perché lui è solo ed è sempre in giro con i pullman, a volte va in continente e ritorna dopo 2-3 giorni, è sempre in giro, capito? E ha detto che negli apparati non se ne faceva più nulla, che li voleva sbolognare, tutto qua. Ah, ho capito, gli apparati, perché ma molti ne aveva allora. Ma per quello che so io ne aveva 5-6, poi non lo so. Ma tu ce l'hai il numero di telefono di Bartolello, se ti viene bene, prova a chiedere se c'è un palmare, a me mi ha fermato un palmare, quanti può essere, 40 canali, che ci abbia ovviamente il caricabatterie, così almeno risolvo il problema. Gappa, glielo chiederò appena possibile, là, non c'è problema, perché cosa vuoi che ti dica? Questi palmari non è facile trovarli piccolini, Sì, ce ne trovo, guarda, subito è pieno, solamente che ho chiamato un paio, e so che molti non te lo mandano perché non ne vale la pena, hai capito? Paghi più di spedizione che di che vanno dalla radio certe volte. Quindi, beh, se c'è lui, vediamo, glielo chiedi, glielo fai chiedere, oppure mi dai il numero di telefono. Ah no, ma c'è l'Antonello, cioè, se ce l'ha, c'è l'Antonello l'apparato, quindi faccio direttamente con lui. Prova a chiederglielo, che io il numero di Antonello non ce l'ho. Ma io lo dovrei cercare, perché non è che ce l'ho sul telefonino, me l'aveva dato poi tempo fa e l'ho messo da qualche parte, e adesso col casino che c'ho qui, siccome sto cercando di terminare questa vetrina, niente, che poi dovrò spostare un po' il tutto, perché tra poco dovrò mettere quell'altro. Ho salvato, posso intervenire un secondo? Capa, grazie Salvatore. Credo, perché io c'ero stasera da Pomponio, perché ho accompagnato un amico per risolvergli un piccolo problema di baracchino. Credo che non ne abbia, perché tu vuoi un portatile che vada sui 27. Sì Giuseppe, un palmare, no? Che vada sui 27, 40 canali, possiamo più o meno ancora, perché il numero da portare devo metterlo fisso in barca, capito? E io così può capitare che ci sia qualcuno, ci facciamo compagnia, come è capitato altre volte, perché l'ho sempre avuto in barca, io l'apparato di fronte al vortex, che l'avevo anche quello della 27. E più della volta mi faceva più compagnia con la 27 che il VHF, Giuseppe. Cappa, perché di quelle VHF ho sentito che mi pare ne ha uno, e a me sinceramente non interessa quello lì. E di apparati che vanno solo a 27 mi pare che Pomponi ha detto ne ha uno, però è sempre... mi pare che VHF, se non mi ricordo male, però Pomponi ha detto che con una piccola modifica potrebbe entrare anche sulla 27, però io dico questo, penso che gli stia dando intorno, lo stia dando intorno ai 100 euro e salvato quel portatile lì. E non è che cos'è? Se un portato un palmare che fa 2-1 o 27 può anche andare bene, perché a quel punto c'è una radio che fa 2-3. Ma mi sembra solo che si possa modificare il portato 27, perché l'antenna solo è diversa, Giuseppe, cioè i palmari delle 2 hanno un'antenna diversa da quella delle 27. E credo che sia un po' difficile, comunque. Eventualmente adesso mi farò procurare il numero di telefono a Mario e ci parlerò io. No Mario, non mi serve adesso, per carità, ma se ci riesci in questi giorni a recuperarmelo ci provo a chiamare io. Mannaggia, fai chetto, se sei in ascolto rispondi a Tornado K. Sicuramente fai chetto ce l'hai, Salvato. Ma vai, allora faccio un giro, prendo Natalino, c'è cioè, il parchetto, lo faccio in fretta il giro, ma penso che Mario, c'è una procura anche Mario, con Mario si conosce bene Antonello, quindi una procura anche Mario, vero ma? Domani mattina te lo porto. Hai visto Giuseppe, eh? Fa un desiderio e mi viene subito esaurito da Mario. Kappa Salvato, comunque fatti un attimino un giro d'orizzonte anche su internet, su Tecnocomunicazioni, e per quella cifra che ti ho detto io trovi di tutto e di più. Sì, no Giuseppe, guarda, anche su, se tu vai sul sito subito.it, non è eBay, attenzione, sto parlando di un sito dove si vende e compra, ma fate veramente con l'acquirente, è pieno lo stesso. Ne ho trovato uno, ma molto bello, della Lafayette, frequenzimetro, già modificato con 200 canali, possibilità di mettere antenna esterna, possibilità di alimentarlo sia al 12, sia col carico delle batterie che direttamente alla corrente con l'attacco accendisigaro. E mi viene una cifra anche abbastanza abbordabile, mi sembra che eravamo intorno ai 70 euro. E solamente questo vale, ti dice, guarda, era di Palermo questo, preferisco prenderlo a mano perché devo andare a fare il pacco, mi sposta l'espedizione e non ne vale più la pena. Il problema è quello che non è un valore talmente alto che molti non te lo spediscono. Ho capito Salvato, ho capito perfettamente quello che vuoi dire, però attenzione, per 30 euro di differenza io avrei preso il nuovo già con 400 di canali, Salvato, e qui mi fermo perché non posso qui in banda, non è che puoi parlare più di tanto. Attenzione che con 30 euro in più lo becchi con 400, nuovo però Adesso vado a visitare il sito della Tecnocomunicazione, vediamo un po', se è così faccio prima e non so neanche a fare 20 telefonate. E diciamo che un po' prima della partita, fra poco intanto c'è la partita, mi staccherò fra 5 minuti, e vado a vedere la partita, prima di intervallo mi faccio una carrellata, vado su quel sito e me lo controllo. Ok, va bene, grazie Giuseppe della indicazione. Del suggerimento. Vediamo un po', proviamo a vedere se Falchetto è rientrato, se oppure Gianni, avanti se c'è qualcuno ascolto sul 21. Ma è strano. E Gianni, Natalino e Falchetto sono tutti spariti. Mario, riprendetela. E K, no, Natalino ha detto che era al telefono. Non ho capito perché non è rientrato. Falchetto deve essere andato in cucina, ha messo un bicchierino di rosso e magari era pronto a caricare e sicuramente si è messo a mangiare. E niente. E doppio rum, ha detto che aveva il buco nella zona, ma io a quest'ora mi avevo mangiato un elefante. Non so cosa dirvi. E comunque non c'è problema, noi già ci vediamo domani mattina, se vuoi il numero già te lo lascio. Niente, poi domani mattina vediamo di risolvere un po' di situazioni, da KK, oh se stai andando via avvisacimi, maestra. Sì, K, proprio cosa detto, faccio questo giro e poi mi stacco perché voglio andare a vedere un pezzo della partita Napoli-Inter. Ok, perfetto, vabbè, noi ci vediamo domani mattina, poi eventualmente per fare non fa niente, non fa male, ma se comincio Giuseppe c'è a quei flussi lì lo prendo nuovo, eventualmente c'è la garanzia, c'è tutto, anche perché per non andare al negozio sei più tranquillo. Va bene, ok, io me ne passo in QRT, mi ha fatto piacere fare una chiacchierata con lui, saluto a Mario, saluto a Giuseppe, tutti il cuore della familiare, salutate gli amici che se lo messo entrare e si sono assentati, io me ne passo in QRT definitivamente, ti lascio anche il mic a Giuseppe. Cappa di positivo, l'amico Salvatore. Senti, io nel frattempo ho acceso già il portatile, anche perché io te l'ho detto in tutta tranquillità, perché io me lo devo ordinare, l'ho già visto e l'ho già visto già all'opera quel portatile lì, ti posso dire anche la marca tranquillamente, è un Intech. E niente, adesso mi faccio un giretto e niente di strano che l'ordini stasera stesso. Esatto, sì, però ti voglio dire una cosa, a te, quali uso te ne vuoi fare? Perché guarda, io li ho tutti, vanno bene solamente in uso nautico, cioè in caso di questo problema di emergenza, se puoi montare il fisso, Giuseppe, è meglio il fisso, No, io lo porto Salvatore, perché ha le stesse funzioni della stazione che ho qui a casa. Molte volte mi allontano dalla macchina e sono fuori dal mondo, mi hai capito? Ah, ok, sì, per quello va benissimo, un po' come il peruso che devo farmi io, perché è comodo perché non sai installare niente di fisso, non installi l'antenna, niente, almeno è più grande, posso mettere l'antenna nautica. Però dico, la comunità che lo porto dentro la valigetta insieme al VHF, quindi mi interessa per quello, però se magari uno c'ha lo spazio e si mette una stazione fissa, diciamo, un qualche cosa che magari fa anche meglio. Ok, perfetto, grazie Giuseppe, magari ci sentiamo domani, sì, domani sera posso entrare perché non c'ho impegni, magari ti faccio sapere cosa ho visto anch'io e mi dai conferma se te l'ho ordinato. Ok, ciao Giuseppe, ciao Mario, correttivo definitivo per me perché mi stanno chiamando per la presenza iniziando, ciao a tutti. Ciao Sabato, buona carica, buon tutto, buona visione e tutte le prossime là. Ce la sentiamo, saluta la signora che in questi giorni non l'ho vista e niente, tutte le prossime, ciao ciao. Cappa di positivo, dai, ciao Salvatore, buon tutto, buona carica, buona visione della partita e naturalmente che vinca il migliore e niente, ossequio a tutto il tuo QRA familiare, una buona serata da parte di Giuseppe, ciao ciao. Hola. Ecco la Vela che è rientrato, e beh Vela, tutto a posto? Mario, ho sostituito direttamente il cavo per non perdere il tempo, perché c'era forse qualche cosa, ho detto la valvolina che scaldava, non so, o dice qualche demonietto in mezzo, Ciao Vela, ben sentito e ben rientrato, mannaggia, ero un pochino preoccupato, sai, infatti ne ho parlato anche poco fa con entrato anche Bulldozer e gliel'ho detto, infatti ti ho anche nominato, ho detto Vela, se mi senti anche se sei col portatile, fammi sentire, mannaggia, un colpo di mano, un qualcosa per venirti incontro, per farmi, hai capito? No, ho andato su il canale e poi ero un po' spento, un po' acceso per controllare un po' tutto, vedere cosa era, che mi stava dando fastidio, poi mi sono accorto che in quel punto, quando stavo un pochettino, scaldava e niente, allora che l'avevo nuovo ancora dentro in bustina, l'ho tolto fuori e l'ho cambiato direttamente e forse ha subito qualche cosa, succede. Era già successo anche un'altra volta, no, comunque adesso tutto a posto, sotto controllo, modulando su, non scalda più, tutto. per tutt'oggi, dai. Oggi mi ha tenuto allegro, Vai tranquillo, Vela, c'è, mannaggia, meglio che non succedano quelle cose lì, dai, perché sono sempre cose antipatiche, e però dai, già c'è di peggio nella vita, mannaggia. Vabbè, no, un pochettino di cazzatura mi sono preso, perché, sempre non costa niente il cavo, per fortuna, dai, però sono sempre rotto di scatta, gli devo dire io a baitare, cosa, non lo so. È successo anche questo, però non riesco a spiegarlo, vabbè, comunque, adesso va tutto bene, dai. K di positivo, Vera. E senti un po', una piccola comunicazione di servizio, se non ne disturbo. Per quanto riguarda quell'apparecchio che ho visto qui a casa, quello che avevi quando sei venuto con Antonio, dove doveva entrare? Su Tecnocomunicazioni? K su Tecnocomunicazioni, pagina 2. H520, perché la signora mi ha confermato la disponibilità del regalo che mi deve fare, però ho paura che sbagli qualcosa io. Attenzione, siccome l'apparecchio non vendono normale, devi chiederlo con 400 canali. E quindi cosa devo fare io, Pierpa, mannaggia? Dai, aiutami tu, se no qua io va a finire che vado a prendere una cosa che poi cadevi in casino. Te lo sto dicendo, devi chiedere che abbia tutti e 400 canali, cioè quello europeo con 4 extra, cioè, pardon, extra europeo con quanti 400, quello tu io leggi con i 400 canali, loro capiscono già. Ma lo devo specificare qui al computer oppure per telefono, Pierpa? Tu è meglio che glielo telefono e parli con te, sì. Quando parli con lei, tu gli dici con i 400 canali, loro capiscono al volo. K di positivo. E il numero lo trovo oppure me lo puoi dare tu? Era quello che ti avevo dato una volta, ma se lo ricordo, c'è problema, aspetta, ce l'ho qua. Aspetta, dunque se si accende questo coso, allora, aspetta, dove stai? Io devo essere la voce, aspetta un attimino. Allora, 02 48 70 6291. Papà, allora ripeto, 02 48 70 6291. Papà, perché no, devo fare una spedizione entro i tuoi giorni, c'è l'ordine lunedì, mercoledì ce l'hai, perché ci mettono tre giorni. Questo sempre se rientrato il tecnico che ti hanno detto che era malattia, ma lunedì rientrerai sicuro, vai. Se è rientrato il tecnico, te lo dà i tre giorni, mercoledì ce l'hai qua. In contrassegno, quando metto il contrassegno, chiedi, o se lo chiedi come vuoi tu. E ce l'hai tre giorni. Però attenzione, chiedo extra europeo con 400 canali, Aspetta che me lo scrivo, Extra europeo? Extra europeo, con cultura attuale, direttamente con i 400 canali specifici, attenzione, con i 400 canali, Extra europeo, extra europeo con i 400 canali, cioè che abbia tutto, Cappa di Roger, l'amico Vela 1, ho copiato tranquillamente, ho scritto tutto e Desiree mi hai detto? Sì, quella che ti risponde al telefono, quella centralinista che ti risponde al telefono, insomma che poi era di Roger, K di Roger, perché ho già segnato tutto qua, e domani mattina niente, la prima cosa che faccio chiamo e vediamo un po', con la speranza che ne abbiano, in realtà, perché con la fortuna che ho io, figurati. Ti do una dritta, se tu lo ordini prima delle 10, 9 e mezza, 10 meno un quarto, alle 11 parte da Milano. Parte col corriere delle 11 da Milano. K e RK, Pierpa, va benissimo. Con la speranza che me lo mandino già modificato, Se tu chiedi così trovano modificato. Se dici di mandarti un H520 trovano normale. Se dici di mandartelo con le 400 carie che te lo rompero trovano così. Ascolta, mi hai detto che Intec. Intec H520, perfetto, molto molto molto bene. E faccio girare un attimino a Mario, che l'abbiamo lasciato un attimino in parcheggio. Avanti Mario sul 21, K. Sì, ci mancherebbe, non ti preoccupare per me, io già riascolto tranquillamente, comunque. E niente, cosa dire, io a me non me ne servono portatili, così che ne ho due, 40 canali e già bastano. Anda bene, anda bene. Sto guardando qui, mi si è aperta adesso la pagina. Questo potrebbe andare bene a H3-2, Sigma Mantova. L'ultimo pezzo che è rimasto, 89 euro. Antenna da tetto 27 MHz. Quello lì lo deve vedere lui. Lui lo sa che c'era l'antenna, che se la dovrebbe piazzare bene. Una volta per tutte piazzare l'antenna e uscire come Dio comanda, non mettersi lì a fare esperimenti come sta facendo e ogni qualvolta brucia il tutto. K di positivo. Comunicazione di servizio per l'amico Vera. Nella pagina che si è aperta devo andare su ricetrasmittenti. La pagina 27, poi c'è pagina 1 e pagina 2. L'ultima pagina ce ne sono uno intanto importante. Allora, io qui ho radio amatoriale CB 27 MHz. K quello. K di positivo, ho già cliccato, amico Vera. Avanti per Mario. KK, vabbè, buoni acquisti Giuseppe, buon tutto, cosa vuoi che ti dica? No, comunque, con questa radio che hai ora, sei micidiale, sei una bomboletta. KK, anda bene Meda. A proposito Mario, mi devi perdonare adesso che me l'hai ricordato, ma io ho chiesto un po' a tutti, ma nelle tue coordinate come ti arrivo Mario? La bomba. Bene Mela, dai, va bene, dai, abbiamo fatto qualche passettino in più, va bene così, dai, grazie Mario per la dritta. Ma tu devi andare a caricare adesso Mario? No, io ancora, ne ho tempo. Comunque, per la cronaca stai arrivando 9:40, Radio 5, super. K di positivo Mario, grazie, ti ringrazio per la comunicazione di servizio. E niente, io vorrei provare a rilanciare quello che hai rilanciato tu un paio di volte, il buon doppio room, che questo buco dell'ozono doveva essere grande, canturato dai disastri. Gianni, se ci sei, balza fuori. Vuoi vedere che niente, niente, è andata a pigliare la figlia a Tempio, che visto che la figlia è andata a vedersi il carnevale di Tempio, non è che nulla nulla ha ricevuto qualche massa ed è andata a pigliare la figlia a Tempio, no? Io non lo volevo dire, perché a dire la verità è malenato anche a me, Mario. almeno prima di uscire magari avrebbe detto, oh signori ci sentiamo, ma non lo so, dai, è anche probabile Mario. No, tranquillo, non c'è andato. Non c'è andato, lo so io che non c'è andato. Guarda Mario, questo è l'HG420 della Itec, bene va. Cappa di positivo, stai uscendo anche abbastanza forte, ma sta uscendo con l'antenna sua o se o l'hai collegato all'antenna del tetto? Allora, questo per anche per Giuseppe, glielo dico, questo c'ha un attacco che è un po' particolare, lo attacchi come c'ha un attacco sotto che è particolare, può spiegarlo bene male adesso. E c'era questo attacco che lo puoi attaccare, l'antenna grande, e c'è una specie di cavo spiralato che va una all'antenna e una alla alimentazione, perché lo puoi alimentare con l'alimentatore. Io adesso lo sto alimentando con l'alimentatore e con l'antenna grande, cioè questo cavo spiralato uno va all'antenna grande e l'altro va all'alimentazione. E so, adesso lo sto andando con l'antenna grande. Non col suo, con la sua antenna, però ti assicuro Mario che esce bene anche con la sua antenna. Guarda un po' bene come esce di modulazione questa cosa. Ma io ti ascolto, 920 come segnale, è la radio 5, non è quella che usi di solito amplificata e cose, però è una radio pulitissima di 5. Guarda, questo è dotato anche di processore, io adesso te lo spengo il processore, un attimo, eh. Guarda, così sono a processore spento. Aspetta che stavo parlando con mio figlio e mi sono girato, non stavo guardando lo smitter, la verità. Fai un altro passaggino? No, no, 4 watt sono sempre 4 watt, però adesso sono senza processore, normale senza il perché questo c'è anche il processore. È 9.20 mi stai arrivando, 9.20 radio 5, pulito, pulito, pulito, senza distorsioni, senza niente, pulito, limpido, chiaro, come che fossi seduto qui vicino a me. Capa, e da te Giuseppe? Qui lo stesso, qui stai arrivando che sei da incorniciare. Io confermo quello che ha detto Mario, è veramente una bella radio, in tutto e per tutto. E se ti direi il contrario, guarda, sarei una persona che non varrebbe niente, vela, tranquillo, e stai arrivando, guarda, che sia un amore. E non per essere ripetitivo, per copiare quello che ha detto Mario, sembra che sei qui dentro questa stanza. Capa, guarda, questo te l'ho attaccato adesso, perché l'altro giorno l'hai visto lì da te, no? Ma te l'ho attaccato per farti capire che questo portatilino, io ne ho avuti diversi e ne ho qua altri, li posso attaccare e li faccio sentire, ma non escono come questo. Questa è una nuova generazione, è dotato di processore, il processore sia in entrata che in uscita, perché già è entrata in uscita, eh? Io adesso ho entrata in uscita inserito. E guarda, veramente uno tra i portatili che io abbia mai avuto come si deve. C'ha tutto quanto, non gli manca niente, c'ha 400 canali, c'ha i canali alfa, c'ha tutto. Senti un po', Vela, io qui sono riuscito ad aprire una pagina e sono riuscito a trovare questo Intec MT 50-50, ma non dovevano essere questi, cioè non riesco a trovarlo e per fa quello che mi hai detto tu, l'H520, tu? Non riesci a trovarlo, lì sono, se non è che l'hanno tolto, se mi dai un attimo di tempo vado al computer che tanto ce l'ho acceso e lo guardo. Aspetta un attimino, se non l'hanno tolto riprendete voi e te lo dico subito. Grazie per fare, io addirittura ne ho cercato un paio qui, CB27 MHz, sono entrato anche su ricettrasmittenti, LPT, PRM, PMR, / LPT, niente, non riesco a trovarlo. Aspetta un attimo, va, non sia che l'abbiamo tolto, riprendete voi, riprendo subito e te lo dico. Grazie Pierpa. Mario, cosa dire? Bisogna che la famiglia aumenti in qualche maniera, eh? Ah, il K no, un portatile è sempre comodo, pensa che io me ne sto organizzando uno, anzi è già pronto, ne manca solo il fusibile, siccome il fusibile non è di quelli corti, è di quelli lunghi, capito? Mi manca solo il fusibile perché molte volte per non stare a piazzare antenna grande, coso, magnetica, quello e l'altro, mi metto il portatilino sul cane così, almeno quando tu sei in zona di sassoli o cosa, se capita ci chiacchieriamo, tutto lì. È K di positivo, Mario, è la stessa cosa che avrei voluto fare anch'io, perché molte volte capita anche che la macchina la devo lasciare, no? Il coso non è... la batteria dentro la tasca non ce l'hai per poter far funzionare l'apparato, mi hai capito? E con quell'affarino lì, insomma, niente, un qualcosina in più hai, dai. Kappa, no, si conferma. No, io, siccome quando viaggio a Cagliari, vabbè, dietro la cabina mi metto la magnetica, faccio entrare il filo e attacco un baracchino qualsiasi e va alla grande. Mentre che se sono in sassoli non ne vale la pena. E allora ci metto un portatile lì dentro il cassetto e lo lascio sempre lì, capito? Così almeno quando sono in sassoli, ok, posso ascoltare e fare comunque la chiacchieratina. È proprio quello che volevo fare anch'io, Mario, perché ti dico la verità e non me ne nego, ho visto quello di Pierpaolo, quello che ha parlato poco fa, e ti dico che è veramente un bel apparecchietto, l'ho trovato, ho sentito anche come esce, da qui, da casa mia, ha parlato con Faichetto, ma ti dico che era una cosa che a me ha lasciato a bocca aperta, devo essere sincero. Vabbè, a me non mi lascia bocca aperta perché in tanti anni che ho questa radio ne ho visto di cose di crude e niente, però hai capito, oramai non è più tempo di buttare via soldi, siccome ne ho tanti, che ho, ripeto, l'imbarazzo della scelta, così che chi me lo fa fare stare lì a spendere altri soldi, uso quelli che ho e via, poi se capita l'occasione o che è, magari chissà, potrei anche partire, ma non credo che butto via altri soldi così per questa frequenza, perché già ce n'è troppo. Papa Mario, ci mancherebbe altro, poi tu, grazie a Dio, già sei anche ben fornito. No, io lo stesso qui, perlomeno, per quanto riguarda me, anch'io qui ho terminato perché già con la postazioncina che sono riuscito a farmi, anch'io ormai ho messo un bel passello qui a casa, non ci spendo manco più un centesimo. Niente, l'unico coso che era che volevo togliere era questo portatilino, dopodiché qui a casa in postazione fissa mi state confermando che bene o male può andare bene. In barra mobile, ce l'ho in barra pesante, potrei fare delle migliorie, ma anche lì piano piano, ho iniziato da niente e sto scendo anche in barra pesante. Se riesco a farmi il portatilino, Mario, basta, finito, Giuseppe chiude le serrande e chi ha dato ha dato, mi hai capito? K di positivo, in effetti già è così, no, io il giorno che capita che vieni in queste coordinate ti lucidi gli occhi con tutto quello che c'è. Avanti, ti chiama Giuseppe, K. Allora, se tu devi entrare lì nella barra a sinistra, devi entrare, ma c'è scritto CP, lo vedi CP, confermami. CP 27 MHz? K. Ok, capo. Sono falsi tutti i baracchini? Sì. Sì, il primo è il CB Intake MZ90 Plus che dice che è esaurito. Ecco capo, vai giù. Ecco, sono giù. Come finisce l'ultimo baracchino, vedi che c'è scritto 1 e 2, clicca sul 2. Positivo, lo sto subito facendo. È apparso? Eccolo qui, H-Intake H520, perfetto. Adesso vado a cliccarci sopra. Clicca sulla fotografia. Ah, e leggi cosa c'è scritto. Allora, il prezzo va bene, prezzo scontato 0, novità no, descrizione, ok. Ma ti devo leggere tutta la storia che c'è scritta, descrizione? Che descrizione? Cosa c'è scritto? Le caratteristiche? Allora, qui dice, Ricce trasmettitore portatile CB 27 MHz AM FM, programmabile multistandard. Poi c'è caratteristiche Ricce trasmettitore portatile con circuito multistandard a 8 bande programmabili. Selezione delle frequenze e dei modi d'uso secondo i requisiti dei vari paesi. Numerose funzioni esclusive fanno di questo radio uno dei più avanzati e sofisticati ricettatori portatili CB. Ampio display LCD da 1.8x5 linee. Elettrode, specchi, processore di seconda generazione, circuito finale del trasmettitore MOSFET a basso voltaggio e basso assorbimento di corrente. Un solo apparecchio pronto per l'uso in tutti i paesi d'Europa. E strumento digitale a barre, segnale RX di potenza TX, 8 memorie programmabili, squelce a regolazione manuale o fissa, indicatore livello batteria, presa per microfono esterno, adattatore per uso veicolare, caricatore da viaggio 230 W, blocco tastiera, loop illuminazione, display. Quello è quello lì, hai visto cosa tutto già? 8 base. K di positivo, e soltanto che adesso, ma per ordinarlo bisogna sempre telefonare. Paolo, dimmi. Ebbene, hai visto quell'apparecchio là? Buonasera a tutti, hai visto quell'apparecchio? Capo che l'ho visto, bello è. Hai visto? Solo che volevo fargli appostare, io non ne voglio fare. Voglio che me lo mandi quando mi arriva, lo pago e basta. E non lo so se te lo fanno così, no. Lì sono così, sono maledetti. Siamo in brucia, raga. Ma non hai già bruciato due denti. Lo so, quella è una cosa a rischio, Allora, ma ecco, un po' in palo non rischi perché sei assicurato. Se ti brucia o ti pagano loro l'assicurazione. Non so, vedi un po' tu, non te ne do consiglio in questo caso perché non lo so, guarda, non so manco che dirti, guarda. Buonasera e ben sentito proprio Room. K, ciao Giuseppe, dai, ho salutato. Ho detto, va nella prima pagina adesso Giuseppe e guarda, 3009, c'è scritto che è uguale al gas, il Pluto, eccetera, eccetera. E nella prima pagina, tu sfoglia, c'è scritto 3009. Ma prima pagina è su CB27? Dove sei adesso? Vai su Lupo. Che lui è su Tecnocomunicazione, mi. Ah, su Tecno. No, devi andare su eBay. Ah, ho capito. Su eBay, aspetta un attimino che qua. Che qua. Vediamo un po'. Comunque, me la parà. E capo, ci conferma. Ciao Gianni, bello. Bello è al tuo, bello, molto bello. Il 3009 è nuovo, in città al tuo, della Superstar. Ma chi li fa la Superstar? Le fa la mano, non so. immaginati l'S9, tutto illuminato di azzurro, frequenzimetro azzurro, solo che rimane più squadrato. Eppure lo vorrei vedere. Vai a vederlo, vai su eBay, sei iscritto su eBay. Babbo è iscritto. E beh, tu perché non lo fai, scusa? Guardiamo tutto da lì. Se devi andare sempre da Babbo Dega, devi scrivere una cosa, invece se c'era il tuo computer, prendi, se tu vai se facendo un'altra cosa, te la puoi vedere lo stesso. E vabbè, dopo la guardo, Cava, Guarda che facile scriversi mi tu. Ma c'è già l'iscrizione, siamo a posto. Vabbè, come vuoi tu. Giuseppe, sei andato? Sì, ci sto andando. E che c'è. Calma, che non sono io, calma. Sì, ci sto andando e la mia è un attimino complicata di cooperare varie idee, datemi 5 minuti perché ho vari passaggi da fare. Vabbè, metti la password, l'ID, la password ed entra. Poi una volta che entri vai su, cosa era? Articoli, radio TV eccetera eccetera, no, elettrici, radio TV eccetera eccetera, e poi da lì vai su CD. Elettronica TV. Non mi veniva la parola più giusto, elettronica TV. C'è tutto da per sé, già. Ecco, tutto quanto. Via, come il Galaxy, come l'S9, solo che invece che avere 40 batterie a 35 costa 250 euro. Una. Bello. Io lo voglio già così pronto, non mi piace. Se prendono l'8001 mi tocca farlo. Già, non conviene più, no. Conviene prenderlo già così e basta. Vedi anche questo inter che ho preso io, va già bene così e non c'è da metterli né microfoni né cazzate varie. Fatto. E beh, Giuseppe, sei arrivato. No, ancora no, perché devo essere sincero, mi hanno bloccato qui su MSN. Mannaggia a me, cazzo, quando sono entrato. Può fare una cosa, già. Una bomba è quella radio. Quale? Quella di Giuseppe? Va. E perché da me non lo sentivi comandava? Va bene. Sì. Auguria. Sì, sono le radio più azzeccate, guarda, che sono uscite ultimamente, anche questa, altre radio che vanno già bene da per sé, sono le più azzeccate. Se mettono quella con 70 watt, mi compro quella lì, a costo di aggiungerci i soldi, non me la compro. Poi è una schioppettata, Se sei come noi la radio di Tornado, cosa è toccato, Giuseppe? Nulla, e cosa toccata? Ho eliminato quel libretto che avevo e ci sono riuscito, però diciamo che va bene così, dai. Adesso ci sto parlando sotto. No, c'è troppo eco, passa appena. Un po' l'eco deve passare, ce n'è troppo. La formalità dell'eco, non è come quello che mettevi tu. Così? Prova. 1, 2, 3, prova. Così va bene. Cappa, io non smetterò troppo. Scusa, ma al minimo sei. Al minimo di cosa? Masciulio, dimmi. Vitamina. Vitamina niente, la vitamina l'ho eliminata tutta quanta. La vitamina l'ho mandata in pensione per il momento, perché mi stava dando dei problemi. Non ne ha bisogno di vitamina con quell'apparato. Noi sono fatti apposta per uscire così con l'apparato, non c'è bisogno di nulla. Ma è compreso, ci avrà un coso come la regolazione, dai. Il PVR. Il VAT, come si deve chiamare? C'è scritto PVR. Ma quanto va? 10 e poi va alla, alla potenza. Attenzione, di PVR non è al massimo, perché diciamo che è una via di mezzo, dai, lo sto lasciando così perché non mi sta dando fastidio sia di uscita che in entrata. Diciamo che ho trovato quindi questa postazione il giusto equilibrio per questo apparecchio qui. Se mi confermate che sto uscendo bene, guarda, gli ho già fatto la foto per non toccarlo più. Oh, bene, Jesse, bene. Ma voglio sapere con quanti watt stai uscendo, guarda il watt metro. Allora, attenzione, sto uscendo con un, vediamo un po', qui dice 2 watt. Stai scherzando, 20 sarà. Che ne so, qui io sto guardando nella scala su. Non lo so, sarà, tu dici che 20. Vabbè, se è una scala a 100. Ecco, allora saranno 20 già, io dico quello che leggo. Ecco. Già va bene, dai. Poi quando sarà, beh, appena. Allora, ci sono indicate di Mario. Mario? Io non sapevo manco che ci fosse perché se l'ho messo allontanato, poi ho sentito solo a Pierpaolo e a te, a così, a tu, e a Giuseppe. Siamo indicati, forse è andata a mangiare, vero Giuseppe? Mi ha detto che era pronto. Giuseppe, avanti il doppio room. Adesso che è caldo, guarda la posizione del PVR e poi aumentala al massimo, vediamo un pochettino come va. Dammi un secondo. T2. Ti guardi la posizione come adesso, di modo che poi lo puoi riportare lì dove era. Te la metti al massimo, vediamo un po' se fischia. No, fischiare non fischia, perché ho scoperto che cos'è che lo faceva fischiare. E cos'è? La manopola dell'eco. Se vuoi lo faccio rifischiare. Come la manopola dell'eco? Allora c'è la manopola interna, quella più grossa, quella che ha la striscetta rossa, no? Ti ricordi? Dell'eco. Allora, quella l'ho portata tutta, è quasi a zero, e l'innesco non ce l'ho più. E vabbè, qualche cosa era. Perché non lo lasciano massimo? Aspetta, adesso te lo faccio fischiare. Sei fischiato tu però. Sì, adesso sto fischiando io. Ma l'apparecchio non fischia più. È capa di positivo. Adesso vediamo un attimino che cosa si può fare qua. Tu mi hai detto cosa devo toccare e PVR. Capa. Ma dimmi una cosa, dove c'è scritto BTG e RFG? Quello come deve essere? Tutto girato a destra o a sinistra? Tutto a sinistra. E quello che ha la tacchetta, dove c'è la striscia rossa? No, a sinistra lo chiudi il mic gain, a destra lo apri, a destra del SMS. Tutto a destra, e l'altro bottoncino che c'è, quello che prendo con l'indirizzo di quelli gli però non prendi gli studi, capito? Invece metterò tutto a destra e aperto tutto. Capa di rosmetro. Allora, adesso ho girato ancora di più la manopola del PVR e la lancetta è salita da 20 a 20 e qualcosa, dai, quasi 25. E ti ha migliorato qualcosa? Vabbè, è normale, segnale migliore. Adesso riascaldate, visto che non fischi. K di positivo, posso anche aumentare ancora così, aspetta un attimino, mamma mia, casa se scoppia tutto qui, guai, aspetta. Non scoppia niente, sono tranquillo. Succhia che andiamo così, vediamo un po' come rulla la radio di Tornado, K. Allora, vediamo. K di positivo, anda bene. Vediamo un po' così come va. Qua un passaggio, vabbè, siamo troppo vicino per provare. Una cosa troppo vicina, cioè dovresti farlo con più lontano. K di positivo. Io non ho qui, non ho nessuno. Avevo fallito, però mi ha detto che ero... Però ho la stessa. Ora vado a mangiare, dai, vi lascio un attimo, è arrivata la pizza, finalmente, c'è un po' come lo zoo. Kappa, buona carica e buon tutto, buona carica e naturalmente a tutto il tuo QRA, dai, e doppio rullo, ci si sente dopo, dai. Grazie Giuseppe, dai, vi lasciamo qua. Ciao, ciao, dai, ci sentiamo. Buona pizzata, buona pizzata. Allora Giuseppe, lo promuovi questo portatile? Capa di positivo. E speriamo di riuscire a cavarne pieni, perché io l'avrei voluto ordinare domani stesso, perché dalla signora ho avuto la conferma che è tutto ok. Ehi, 10-10, 10-10, ce lo ordine 10-10. Ho voglia. Guarda, per me questo è stato un portante dei migliori acquisti che abbia fatto. E diciamo, vabbè, ma io sto parlando a una distanza, non so se ti arriva bene adesso la modulazione, sto parlando a una distanza quanto è lungo il mio braccio. Tu lo sai quanto è lungo il mio braccio e sto parlando a questa distanza. Ti posso dire che qui stai arrivando un Santiago di 7 e una radio di 5 quinta, senza nessun problema. Aspetta, adesso lo abbasso di parte, voglio vedere quanto arriva, aspetta un attimo. No, così lo sto provando a 10.000 watt, quello sembra riceve lo stesso. Kappa, ti ricevo, fammi un passaggio che controllo lo smitter un secondo solo. No, guarda, questa adesso è 10.000 watt. Kappa, hai dei picchi di Santiago di 5 e radio di 4, e va troppo bene. Santiago 2 e radio 2, dai. Aspetta che adesso faccio un passaggio, ma non c'è un piccolo però a 4 watt. Adesso sono a 4 watt, perché questo c'è la regolazione da 10.000 watt a 1 watt e a 4 watt. Guarda, adesso sono a 4 watt. Santiago 5 e radio 5, pierda. Quindi vabbè, è lo stesso, no? Kappa di positivo, una bomboletta qui, perlomeno, e nella mia stazioncina modestissima qui sei da incorniciare con quell'apparecchietto lì. Hai visto, basta poco che ce l'ho, adesso con l'antenna più grande, cioè con quella da 50 ottavi, e con i 50 ottavi sono sicuro che migliora il segnale. E Kappa di positivo, Santiago, posso darti un 7.5 e una radio di 5 lode. Hai visto, per avere 4 watt, figurati se anche tu ce l'attacchi con un'antenna così, cioè come l'abbiamo provata anche ieri, hai visto che effetti dava effetti buoni, che poi non avevo più capito qual era la radio neanche. Sì, è un apparecchietto, guarda, mi sono innamorato da quando l'ho visto, perché sì, in macchina ce l'ho, qui ce l'ho, da tutte le parti ce l'ho, però è bello anche quando ti stacchi dalla BM, mi hai capito, Pierdiana, è bello anche averlo dietro, non si sa mai, e poi come a contatto col mondo bisogna essere anche quando sei ampliato. Questa è la parete che io da dentro casa parlo con Gianni, poi ce la conferma anche lui, io parlo con Gianni con la sua antennina, che infatti quando tu non mi senti lui mi sente, però se io esco fuori, perché tu, quando io parlo con Gianni sono all'interno, proprio seduto, tranquillo, finestra chiusa e sto qua, ma sono sicuro che se mi metto fuori tu da lì mi senti lo stesso, con i 4 watt. Di positivo. E senti, tu hai anche ancora l'apparecchio acceso lì a casa? L'apparecchio che cosa? L'altro. Diciamo il paracchino ufficiale, devo commutare l'antenna. Ascolta, sono Antonio, se ancora qui sul 21. Un passaggio sul 19 alfa, lo possiamo fare, veloce. E capa, aspetta, commuto, ci vuole poco, commuto l'antenna e lo facciamo. C'è nessuno. Poco è passato da 120 a 125, ho subito un picco aumento di 5 euro. Sì, ma non fa niente, dai, per 5 euro già non sconciamo il carico, non è grossa come differenza. Non so perché hanno messo questi 5 euro di prezzo, vabbè. Aumentato anche così, deve essere per la cosa che ci fanno, boh. Papi Roger, già ci sei? E che contatti lei? Cosa ve ne fate? Cappa, metta! Attenzione, Gianni. Sì, adetta, sono qua. Ok, e Intec H520 con 400 canali. Extra europeo. Abbi la cortesia di impararmi il piano perché sono scrivendo. Intec H520. H520, così. Extra europeo con 400 canali. Bisogna richiederlo così. Cosa ve ne fate del portatile? Giuseppe, serve. Non vedo che utilità ne possa avere del portatile. E poi lui vuole ascoltare qualche questione. Quando va in bagno se lo porta presso. Sai, che goduria. Come faccio io, Gianno? Ehi, se provi al Vasalviru, solo che io non l'intendo, gatta, che andai con rubo portatile. Gianni lo sente, perché sono vicino. E Gianni mi sente anche quando vado a quel paese, quel parassita. Io l'ho immaginato cosa tutto gli hai detto, ma... E questo è che il vapore va da 4 a 1 e a 10 milliwatt. Mi sente anche a 10 milliwatt. Gianni? Sì, hai scritto? Sì, ho scritto tutto, non ti preoccupare, Giuseppe. Sarà fatto, tanto domani devo telefonare per una questione mia. Quindi il numero che ho io ce l'avrai anche tu di questa decennia, sì. Devo andare su internet, anzi dammelo là, perché poi non mi tocca attaccare il computer apposta. 02 48 70 62 91 meno pronto e dammi il via 02 48 70 62 91 24, l'87, il 60, il 2 e il 91. Altri 500 euro in via. Segnati 24, 8, 7, il 60, il 2, il 91 no perché non esce quello, il 19. Sì, capa, poi non ci vado fuori, dov'è il mio capito, no? Dopo fuori ce l'ho io. Allora, la parete della solita, perché come ho detto da te, ho il coso davanti, no? E io mi stavo già immaginando da poco qua, che ho detto domani mi ricordo. Beh, non stavi scherzando che... Ma sì che stavo scherzando, ma quando mai ero stato così tranquillo? Io sono così Gianni, e quando trovo la compagnia giusta in frequenza, no? Si ride, si scherza, ma ci sto perché, che ne so, magari stando così stai anche di più allo scherzo, anche perché sono una persona abbastanza tranquilla, mi piacciono gli scherzi, anche se me li fanno ci sono, attenzione, non è quello il problema, hai visto anche ieri sera con Pacchetto, ne abbiamo detto di tutto e di più, quindi rimati, ma ben vengano giornate così che ci si sta tutti quanti tranquilli e qualche volta dimentichiamo anche i disagi che ci crea il lavoro, dai. Davvero, ma dopo che c'è poco stampato ho notato che la tranquillità esiste. Capa, l'importante è quello, dai, perché guarda, già ci avveleniamo tutta una settimana intera durante il lavoro, figurati se mi devo avvelenare qui davanti a lui. Ci facciamo la chiacchierata tranquilli, senza nessun problema. Comunque, a proposito di chiacchierata, io direi di andare sul 21 se voi siete d'accordo, perché se dovesse entrare un Falchetto, chi che sia, io non so se lui o loro, chi dovesse entrare ce li ha questi canali. Ce li hanno. Credo che soprattutto Falchetto ti trova anche in capo al mondo. No, già ti trovano, ce l'hanno tutti, dai. Le missioni in realtà io stavo dicendo una cosa, dai. No, nulla, che cosa dovevo dire? Ho sentito, mi stavo dicendo sui numeri, o no? No, ci mancherebbe. Ciao, cosa volevo fare? Ritorniamo sul 21? E Giuseppe stava facendo una prova qua per come era sul 19 alfa, capito? Adesso se vogliamo andarci ci rigattiamo. Come mi sentite adesso che ha passato a zero tutta la cosa, tutti diciamo i vatti, come mi sentite? Perfettamente bene, perché ha passato tutti i vatti, arriva a 20 mi pare, guarda a vedere il watt, metto 7. Guarda, adesso sto abbassando ulteriormente, com'è? Sempre buono. Andrà bene, dai, così non disturbiamo il vicinato così. E niente, se voi siete d'accordo sul 21, o se poi ci sono degli impedimenti da parte di qualche altra persona che magari entra per disturbare, facciamo così e ripartiamo. Vai sul 21, aiutati sul 21. Ah, io sul 21. Allora. Fatto tu, vai voi. Primo. Mica l'ho detto io mezz'ora fa, mi sono un pulsante. Lumi, Capri 2, avanti. Ma eravamo su 19 alfa. Come ti sento, Santiago 3, Radio 3, dai, ti posso dare. Quale Capri 2? Beh, cosa ha combinato? Niente. Ah, gli hai dato l'Argus? Cavagava. E tu, quello lì, ma non usciva a basso del radio, quello valvolare, Capri 2? Ma se tu gli abbassi le luci esci troppo basso di radio. È come... Perché sa? Non lo so, ma qui vediamo cosa aumentare ancora. Le luci, a voi, vai. Aperto c'è. No, ma no, ce l'ho aperto, ma l'ho aperto in due minuti. Mi stavo dicendo, c'è un Natalino, c'è anche. Sì, c'è un Natalino, stiamo passando tutti qua. Pierpaolo, Giuseppe, tutti quanti. Avanti. ma avanti Giuseppe. L'ufficio sta parlando adesso come si chiama, perché ha chiamato la ricoglio dei fumi per quelli non classi. Dopo questo maduso era vicino, ho parlato di chiare come ha chiamato, perché sono fatti in un piano adesso per la stagione estiva, ecco lì. E adesso che vuole fare un curriculum di chissà sopra il fumo. Adesso vi chiamo perché per andare in questi giorni ho fatto. Avanti Giuseppe. No, non so, ma ne bruciate, allora ce ne sono Antonio. Ci sono anch'io. Che Nattarino, vieni. Nattarino, quindi può portare a aumentare la torre che si è fatti, devo aumentare il dentro, perché non è volata. Vabbè, io ti sento a tre, per esempio, sei tre e la radio è buona. È più forte di segnale. No, io adesso sento quattro di segnale. Sul camion ho lavorato, ma non c'è problema per quello. Sì, il 330 ha portato, insomma, io lo cargo, li conosco tutti. Tutti quanti, gappa gappa, oh, siccome c'è il mio gringhellino che mi deve fare il favore, così, mentre che quello me l'ho detta, mio figlio lo segna nel computer, così vediamo cosa ne esce fuori, da. Oh Vera, se mi dai quella specie di WCB, non mi ricordo come si chiama, se me lo detti, che cos'è mio figlio lo scrive sul computer? Il tuo figlio ha scritto su Facebook, eh? Sì. Allora, per andare su Facebook, mettere la ricerca, GP, tutto intero, GP, KK, Sassari. Allora, GP, KK, poi? Sassari. Tutto attaccato, ha detto mio figlio, Gerpa. Tutto attaccato, GP, KK, Sassari. Se è quello giusto, gli appare, quando entra nel gol, gli appare T, Vera. E dopo Sassari, cos'è, punto IT o punto com? Non ce ne so, è punto com, devo scrivere soltanto GP, KK, Sassari, dopo. E prima e dopo, niente. nel motore di ricerca lo deve mettere. K, d'accordo, si sta trovando. Ha detto che ti ha trovato. Deve inviare la richiesta. Ha detto due minuti che manda la richiesta. È acceso qua. D'accordo, oh, riprendete, poi vi farò sapere. Cambio basso, riprendi Gianni. Ah, raga, raga. Ma c'era Capri2 che stava scoprischiando l'apparato, vediamo un po', Capri2. Deve essere ancora smontando. Giuseppe, avanti, avanti. Ehi, Cappa, eccomi qua. E cosa stava scoperchiando Capri2? Io ho fatto la tonalità, Giuseppe. E come a to? Cambiato forma la tonalità. Come? Così è, pare un po' robot. Come poco fa ammettilo che andava un bel bene. Perché lo tocchi? Vedici l'attacco. Ma io non ho toccato niente. Ma è spostato, c'è la gelante, c'ha la verba adesso. Aspetta un attimino. Forse è sbagliato manopola. La tonalità come questo che va bene. Giuro che io ho toccato solo la levetta per uscire dagli Alfa e basta. Tutto il resto è noia. E vediamo un pochino, un secondo solo ragazzi, non perdiamo la calma. Ah, secondo me non dipende da toccare, dipende dal fatto che tu stai parlando o troppo vicino al microfono o troppo lontano. Vediamo un po'. No, ho toccato. Fidati già, perché poco fa ci fa tipo come esco io, adesso invece esce ancora diversamente. Ah, attenzione, ma ho toccato nel senso io ho abbassato i watt? Sono troppo bassi, dai. Ah, e allora ditelo ragazzi, ne bastava chiederlo e io così come va? Poi vabbè, ho toccato anche l'eco, fidati, poco fa andava bene. L'eco, te lo dico io, la prima tacchetta la devi mettere, da mezzogiorno a mezzogiorno e 5. Adesso com'è? Non è che mi piace molto, prova, secondo me tocca anche la velocità dell'eco. Adesso com'è? Non lo sento l'eco, lo sento reverbero. Cappa, perché sicuramente sono molto molto sensibili quegli affari. Eia, da chi di urti appena appena ti cambia la modulazione. Adesso? Allora Giuseppe, l'eco ce ne sono due, una è la velocità e l'altra è l'eco proprio. L'eco lo devi mettere a uno, la velocità controlliamo perché non mi ricordo a quanto ce l'avevo. Adesso? Come va a toccare la velocità? Parla, non fischiare, se no non si capisce. Muy bene, vedi un po' così. Così mi sembra che sia a posto. Adesso? Adesso? Prova. Prova. Ripete troppo ora. Adesso? Se mi pare sia chiuso. Ma? È chiuso adesso, è quasi chiuso. Vedi un po' adesso. Oh, lascialo così. Molto bene, grazie per il consiglio. Cappa, così va bene, vero? Cappa. È appena di... ma leggermente troppo di più. Comunque, sicuramente hanno un sacco di sensibilità con gli affari, è per quello. Poi c'è il parlascolta, non ti senti da parlascolta, oh Giuseppe? Sì che mi sento, e che l'ho abbassato. Vediamo un po', su che andiamo. Sì, adesso è anche esagerato sentirsi così, dai. vediamo un po' così, sì. Prova. Prova. Uno. Uno. Due. Due. Tre. Tre. Su. Su. E andiamo. Prima c'era l'eccola veloce, c'è. E appena appena di più di eccoci, appena appena di più e risultava come una domanda perfettamente a posto. Ma adesso com'è? Adesso è troppo secco secondo me, capito? Non è un eco continuo, adesso com'è? Capito? Per intenderci, cioè che adesso com'è? Così, così, con l'eco. Prova un po' così. E adesso ce l'hai un po'. K di positivo. Positivo. Adesso? Niente. Adesso niente. Riprendiamo avanti amico Mario. In un attimo, non so cosa cavolo abbia fatto, l'ha messa. Ha messo che mi piace anche. Uguale come c'è questa radio, dai. Allora, poco fa sicuramente era così. Era diverso, era. Ma va a sapere cosa hai fatto. Però... Robo. Così? Non rispondi. No, a sapere cosa hai fatto. Comunque è meglio con un leggero sottofondo, dai, già va bene lo stesso. Attenta, Gianni Nannini, e vai, poco cuore. Attento il tuo cuore. Ciao. Antonio, vedi un pochino se così ti piace la radio. Avanti. Non mi piace. Parato, parato, Giuseppe. Capri, vai sul residuo, 25. E così un po'? Gianni, dai, mettici un chiodo. Non va? No, va. Come la senti? Dammi qualche consiglio. Ammetti un pochettino l'eco. Così? No, aumenta. Vedi un po'? Non c'è, aumenta, gira quel pomello. E l'ho girato. Fare un cannaruccio, fare. Così? Così? Non va bene. Eppure, ti giuro che non ho toccato niente. Faccio un po' l'attenzione perché sicuramente sono molto sensibilissimi quegli affari perché noi abbiamo una radio che così se no siamo fare attenti non si può fare le cose. Avanti Vera. Ma mi sembra che ho capito Gianni che ti abbia detto di passare un attimo al 25. No, era con Capri 2, ha detto a lui di passare sul 25. Allora ho sbagliato io, mi sembrava la volta a te. Comunque posso darci sempre una sverciatina, un attimino. Capri Rospetro. Oh bella. Capri. Mio figlio si è inserito, è uscita l'apparecchiatura di bombolo. L'apparecchiatura di bombolo? Eia. Come l'apparecchiatura del bombo? Quella è la piccola parte. Aspetta che guardo. Non ho ricevuto nessuna... Come si chiama? Mario. Eia, mio figlio mi ha detto che te l'hai aggiunto. Davide. Ah, lui è? Cappa. Lui? C'è già scritto sposato? No, si è messo a ridere, non l'hai sentita. Ingagnoso, c'è sa cosa, da. Più o meno, là, più o meno. No, è perché non capivo. Ma mi stava spiegando il mio figlio che è una chat comune quella lì, solamente che quando fa quello lì dovrebbero uscire tutti quanti i cibi, così è. Guarda, è in fase di iscrizione ancora, e se guarda lato c'è scritto che è dedicato a cibi e anche a non cibi, cioè i fan li devi sempre abbinare tutti, anche quelli che non sono cibi. Purtroppo ci sono i fan, no? Quelli che no, che magari sono simpatizzanti e amici di altri cibi, li devi accettare. Kappa, no, perché li stava cercando mio figlio, dove si ritrovava. Ancora ce ne sono, non sono molti ancora, stiamo aspettando. Nell'altra fase di prima ne avevamo segnato 343, ci auguravo che anche di fuori dell'estero, ci auguriamo che arrivino, dai, è aperto da un paio di giorni, quindi il tempo di allestire tutto e poi non so se guarda in basso e dica se è sovrastato un po' da chi ha messo gli altri link nel suo, e quindi però ci sono dei filmati di radio, anche dei video ci sono, se va a cercare ci sono. Guarda se ci sono io, ma... Sì, a te ti ha trovato subito, a te a Bombolo li ha trovati subito. Ciao. Attenzione, attenzione sul 21. Io figurati che ancora non c'ho né sito né niente, non c'ho nessuna iscrizione, perché io non ci vado mai. Adesso l'ho detto a mio figlio di farmela, però adesso per darmi il password, quello, l'altro, per potermi iscrivere, dice che ci vogliono 3 giorni. O 3 giorni. Per farmi la password per potermi iscrivere anche io a quel sito lì. Vai, 3 giorni. In 2 minuti fai tutto. Kappa, già glielo dico. Se no già vede lui. Adesso è di nuovo con la ragazza che sta ciu. Kappa. Adesso è andata io, posso andare a controllare un papà. Beh, lui sì. Io ce la porterò la fotografia. Chi te l'ha fatto la fotografia? Io ho messo il cavalletto e l'ho fatto all'autoscatto. Un autoscatto, quindi? Sì, signore. Kappa, ma tu hai pensato adesso? Mi ci metto io seduto nella sedia e così caro faccio figura, ma io voglio venire apparato però. Ma sta cambiando, metto la trazione che c'ho adesso, gli cambio la fotografia e ti arriva un'altra fotografia. E se ne hai quelle foto di coso, di lui, quei bestioni, hai visti? No. Io ho fatto la passatina qui, ero tutta la sera impegnato in quel modo digitale che lo stavo testando e quindi non ho avuto tempo. Ci abbiamo io e Ciccio Bello con i suoi bestioni, belle bestionine quelle, la signor Cambio, bellissimi sono, fatti bene. E poi ci abbiamo anche a Ponte Santi, simpatizzante. Quello già l'ho qui. Visto, ho messo il video, ci sono i video. Mi ha mandato anche un messaggio di saluti a tutti i cibi di Sassari. Me l'ha mandato tramite il messaggio e la verità ho fatto la cazzata perché mi sono dimenticato di pubblicarlo. Comunque, mi ha mandato i saluti a tutti i cibi di Sassari. Ringraziamo. messaggio a tutti i cipitai. Chiaro, chiaro. Tanto non ne ho fatto fotografie, cara. Adesso quella della passione che dice a me. Sarebbe bello vedere anche qualche radio bella, mettere qualche radio bella, dai. Ma fa che mi cambia il profilo. Come vuoi. Come vuoi, tu l'hai messo col tuo nome e cognome. Te l'ho detto, potevi cambiarlo e metterlo come nato io Alfa 1. Sì, però io mi toccava per fare un altro Facebook, capito là? E allora ti fa così in presa. Ehi, l'iscrizione ci vuole poco a farla, 5 minuti e fatta tutto. E vabbè, piano piano, vedi, dai, magari la cambi, vedi un po' tu. La fotografia comunque la posso mettere nel profilo, posso cambiare la foto. Beh, certo che puoi cambiare una foto e puoi mettere quelle che vuoi a quanto ti pare ti piace, e poi non solo nel profilo, puoi mettermi anche delle altre all'interno che ti vuole visualizzare, visualizza tutta la tua stazione, le puoi commentare, cioè se tu vedi dove c'è la sezione foto, puoi commentare di ciò che spiegare, che tipo di radio, che ne so, quello che fai, QSL, tutto quello che vuoi, ci metti tu, quello che ti pare ti piace. Sì, cara cara, va bene, domani ce ne vogliamo fare. E comunque, le volto a tutti che chi vuole mette, che tipo di operato c'è, quanti anni c'è, insomma, anche programmare un po' la sua storia, che così chi vede lo invita anche a scriversi, poi ci si commenta fra di loro, possono commentare fra di loro, 2, 3, 4 persone, a piacere, là. Va bene, là, signori, io vi saluto che me ne vado a letto, ci sentiamo domani, se Dio vuole i carabinieri permettono, cara cara. Speriamo in noi, carabinieri, no? E speriamo che ce lo permettano a tutti. Va bene, Natali, buonanotte, buon tutto, ce la riscoltiamo domani. Alle prossime. Ciao, ciao, buonanotte, avanti Mario. Ciao Natali, buonanotte, buon tutto, ce la risentiamo alle prossime. Ciao Natali, buonanotte, buon tutto, ce la risentiamo alle prossime. Avanti Giuseppe. Ciao Natali, buon tutto, ci risentiamo presto, dai, buonanotte, buonanotte. Giuseppe, tornatoci. Eccomi qua Pierba. Su che andiamo? Su che andiamo in questo momento? Vediamo un poco Antonio Bombo come coppia Radio Tornado K. Bombolezza Radio Tornado. Lascia tutto così. Non tocco più niente. Sposta le mani, non toccare più niente, Ma ti giuro che non ho toccato niente manco poco fa. Ma tu ti sei avvisato, sei come dire, sembravi quando poi quando esce il Papa lì a Piazza San Pietro, no? Che fa quello Glorifiori sorelle. Tipo questa? Cari fratelli, fratelli, sorelle, sorelle, K. No, veramente adesso sembrava il sindaco di Garda, dai. Mazzarola. C'è presente il sindaco di Garda? No, che fa, non ho avuto mai quell'opportunità di conoscerlo, però non lo nominano sempre, chissà perché. Perché si è affacciata alla finestra e ha detto: popolo, faremo da oggi in poi come la Carlo Magno, voi lavorate, io Magno. In cagartene. Mario. Mario non c'è più. È andato via. No, stavo guardando un apparecchio che è uscito, che cambiava colore. È diventato tutto rosso al computer. Visto, hai capito che è Mario, hai visto? Ah, già l'ho visto, sì. Stavo guardando quello lì e per quello che non ho risposto subito. KK. Quello è l'apparecchio di Franco Boomerang. Non so se lo conosci, quello... Pensavo una più del diavolo, mi. Sì, vabbè, ne sa una più del diavolo. Ma il diavolo ha fatto le pentole, ma non i coperchi. Ma lui li fa e poi ci mette anche il coperchio e lo chiude. No, il coperchio è tutti i colori di sua apparecchia. L'inventore è pazzo, se vedi quello che ha fatto, tipo albero di Natale, che quando va a modulare si illumina rosso, verde, giallo, azzurro, blu, tre altri colori li metta. E allora riesci l'arcobaleno. E allora? Tanto deve vedere, ti mette tutti i colori quando sta modulando. Quando finisce di modulare diventa azzurro. Quando si rimette a modulare diventa in tutti i colori. E si illumina tutta la mascherina, perché tutta la mascherina con tutti i tasti sono tutti trasparenti, in carbonio. E deve vedere che cos'è, ora è quello di Natale, pare, tutta invenzione, perché ma è gappa, no, comunque quello che ho visto che si è fatto rosso è un beccarino. È bellino, e poi hai sentito la popolazione che c'ha, quello di Uruti, Sud Italia, quello è lui. Ma è gappa, ma va bene, là, già entreremo più spesso a controllare, a vedere. E adesso mio figlio mi deve creare il sito e così mi fa entrare anche a me, anche quando non c'è lui, così, anziché solo giocare posso anche curiosare, KK. Ehi, capo, poi ci troverai con me, c'è la curiosità, c'è anche, adesso che ci ha messo anche qualche barbelletta, e insomma, vediamo andando avanti, come prosegue. D'accordo, ripartiamo a pigliare a Giuseppe, che adesso tra un passaggio e l'altro, la disattenzione, guardando al computer, mi sono sfuggito, non so se Capri è ancora in frequenza, se Gianni è in frequenza, tutta quanta quella ammarata. Va bene, ripartiamo a pigliare a Giuseppe nel frattempo. Capa Mario, dai, tra un'infurugiata e l'altra, curiosando qui e là, io sono passato anche sul 25 per cercare il buon doppio room e Capri 2, però in piedi non vedi più. Io sono qui, mi ascoltate! Capri 2 si è affacciato, però il radio si è più basso di prima, eh. Avanti Capri 2 con la buonasera. Ciao Mario, buonasera, è più basso che il telefono. Il telefono fare può contentare e capire. Pure io ho curiosità, ho tutto il canale ma non c'è nessuno. No, è ritornato qui Capri 2, Antu. Niente, dai, no, io ti ascolto sempre, magari non ti ascolta Bombolo, non ti ascolterà Giuseppe, non lo so, però a me mi sembravi, rispetto al passaggio che hai fatto prima, mi sembravi leggermente più basso, poi parlassi pure che io mi stia sbagliando, Qui la radio Giuseppe, sessione Mario, come la radio, come la ascolti? Ma io ti ascolto bene, non forte forte, ma ti ascolto bene. E Giuseppe non so se ti abbia ascoltato, perché tu è verso di loro che ti devi far sentire. Io ti ascolto comunque, non c'è problema. Giuseppe, guarda se tiri fuori a Capri 2. Avanti Capri per Giuseppe, Cappa. La radio come l'ascolti, come sempre Giuseppe. Gianni, qui sta arrivando Santiago Zero e Radio 1, K. Ecco la voce di Riccia, ecco la voce. per le mie coordinate ti posso dire che stai arrivando con un Santiago di 7 e una radio di 4, per le mie coordinate, però Giuseppe quasi non ti ascolta, e Bombolo credo che sia più o meno agli stessi livelli. Prova a chiedere anche un controllo a Bombolo, e così sentiamo anche la sua versione. K. Io non lo sento, Mario, non lo sento per niente. Avanti Capri 2. Sì, Bombolo, l'ho detto, ma non mi ascolta, perché non mi ascolta manco quando arrivo bene. K di positivo, vedi, loro non ti ascoltano, io ti sento abbastanza bene, e poi bisogna vedere se ti ascolta Vela, se ti ascoltano gli altri, perché purtroppo in radio non ci sono solo io, Capri. E ok, Pierpa, tu mi ascolti? No, sono già, ti ascolto. Siamo molto pochi che ti ascoltiamo, perché gli altri amici della frequenza non sono tutti che ti ascoltano. KK, anda bene, riprendi l'amico del mondo dei sogni, nonché Gianni Doppio Rummo, gli droppi i piedi. Come sale la glicemia, mi addormento, Ah, così è, quando ti sale la glicemia ti dormi così. Catta, vabbè, meglio sapersi, dai, perché anche io sono diabetico. Capa. Ma è solida? No, a me me l'hanno scoperta dopo che mi hanno operato, che mi è venuto il coso diabetico. Prima io non avevo niente. E ci vai la dottor Fulvio? Sì, ci sono andato, ma mi ha ordinato un sacco di visite, mi ha fatto fare il coso della spirometria, mi sta facendo fare la visita per gli occhi, che ci devo andare il 25 e 26 di questo mese, adesso non me lo ricordo bene, devo guardare, e tutto lì. Dopo che ho tutte le visite fatte, devo pigliare tutti gli incantamenti e portarglieli. Cose di normale amministrazione. KK, riprende Vela. Cosa va? Mi prenda per un paio di minuti voi che io mi finisco questa barba. Cavagata, finisciti la barba. E io... basta che mangi un dolce, una frittella, una cosa e via. No, a me non mi hanno ordinato niente, mi hanno detto semplicemente di stare attento da quando mi hanno operato sempre, mi hanno detto di stare molto attento alla pressione e poi mi hanno mandato loro stessi al centro diabetico, solamente che al centro diabetico io sono andato col coso dell'ospedale e mi hanno ordinato un saccaccio di analisi, raggi e quant'altro. E adesso, dopo che faccio questa visita degli occhi, dovrò andare al dottor Pacifico e portare tutta la documentazione, e poi in base a quello mi daranno la cura, capito? Ecco. Via. Ho aumentato il segnale adesso. Prova a vedere. Guarda, vedete, sto attaccando l'altro qui. Ok, se mi ascolti adesso. Adesso sei sette, sei tornato come prima. E la radio com'è? Cioè, è buono. Mi ascolti adesso? Sì, sì, è sempre normale, ma va meglio. E ok, sto a Mario che lui c'ha, che adesso c'è una stazione buona. Com'è adesso, ma? Adesso è migliore, adesso sei salito per le mie coordinate, sei Santiago 9 e radio quasi 5, dai. Comunque è ultima per la truppa, perché mi è sembrato di sentire Bombolo che ha fatto l'esclamazione, mi accapri. Segni evidente che ora ti ascolta anche lui. Gappa gappa, vai. Gappa, sì, lo sento. Lo sento Mario, so che c'è, un po' incomprensibile, però adesso lo sento. Giuseppe! Avanti Capri! Ok, ho migliorato qualcosa! Muy bene, hai migliorato tantissimo, adesso sei comprensibile qui nella mia modesta stazione, Cappa. Segnale, quanto mi dai di segnale? Allora, qui di Santiago 6-6, radio 3, però va benissimo. Ok, la radio mi interessa, quella che io voglio, la metto per la radio, Giuseppe, poi il segnale non mi interessa. Ok, adesso aumenta qualcosa la radio ancora, no? Fai un passaggio, Capri. Un attimo di bianco per me che io vado a accompagnare il mio gringhello, vengo subito, ciao. Ciao Mario, ci sentiamo. Hola Giuseppe, 1, 2, 3, prova radio, 1, 2, 3, prova radio. Sì, sei salito un punto adesso, Capri 2, adesso sei molto più chiaro. Fermo così non toccare più niente. E ok, appena appena ancora è da ridere, e capire. Fai un passaggio Capri 2. Ora, ora, 1, 2, 3, prova radio, 1, 2, 3, prova. Oh, lascia tutto così, ferma così e va bene, e avanti Vela 1. Oh, Capri 2, mi sto salendo in macchina e vengo lì, sto portando un chilo di chiodi, ti metto tutti i chiodi, blocca così, te lo blocco così. Va bene, allora, sto usando la roba transistorizzata e adesso l'ho portata a Pomponio, Antonello, hai capito, non credo mai visto. Se ci manca Pomponio guai, no, perché è giusto per modulare, per fare gargola, se vuoi fare gargola, la faccio in altra colla, fino a confermina, però no, noi sa radio. Bombo, a me mi interessa di ascoltare Antonio, Antonio mi ascolti. Che ti gruppo Capri 2, e tu come mi senti? Enrico, ti sento a tu, ti sento, ti auguro la buonasera, finalmente riesco a copiarti, tutta roba qui, diciamo, di segnale, io adesso per il segnale... Mi sto tirando un po' fuori con le piste, però è un piccolo bene o male. Già proprio bisogna finito, no. Ma c'è di tirare un tubo d'acqua e alzare. Adesso vediamo le previsioni del tempo in questi giorni. Mi dedico, mi armo di tiranti come ha detto Gianni, e facciamo qualcosa alla grande. Riprendi già. Gianni ha detto. Un po' fuori con le pinze, però ti riesco a sentirti in qualche maniera, dai. Antonio! Allora, Uia, voi ho appena finito di mangiare. E anche io, due spicchi di pizza, non di più perché non li ho pure, avevo smalti di cucciare fai, ma poi non mi cazzo cucciare, tre dì a maniche di fa e l'altro io. Ok, come sono io, Antonio? 8, radio 5. Bella, ha beccata di vettura. È ok, buona per la truffa, come dite. È ok, Natalino aveva fatto quel QRT, mi sembra, io neanche salutato, perché stavo arrangiando su questa cosa, dove... Comunque, vieni, poi però questa volta Antonella devo fare andare con i 110 volt, in modo che lui rimanga libero per l'asilo. E allora, iniziamo a ragionare, poi si la leano i gudurumi, usa valvola. Riprendi anche il rilancio, che poi sta facendo la barba, mi sembra. Vabbè, tra una lametta e l'altra, per parte, rimetto il cambio. Non risponde, Giuseppe, riprendi, non voglio che si tagli per colpa mia, mi. Vai tranquillo Capri, io giro subito a doppio room che l'hanno interrotto due volte dopo che gli ha rilanciato il mic. E riprendi tu doppio room. Via. Comunque Capri adesso va bene, adesso l'unica cosa da fare è l'antenna. A Sardina, se te la metti ti puoi mettere la mantova, mettiti una mantova che tira neanche di più. Già l'ho vista l'altovello in un angolo appoggiata, mi. Prima ero compenso di metterla, poi ho visto quella di Antonella, mamma mia, ogni cosa, da grassi l'avevo vista, me l'ho anche dimenticato, e poi finire le valuti che era, mi è fatto una cosa come si deve. Comunque già confermi che adesso sono 5, così. Prova per. La radio mi interessa, per il segnale mi interessa la radio. Si di radio arrivi bene qua. Adesso si sente di segnale e 5 di radio, dai. Hai 6 e mezza, picchi di 7, si di segnale. Ok, grazie al mio amico Pomponio che mi ha portato questa roba, che non so come ringraziarlo, è un amico, ha fatto una buona impressione a mio figlio grande, ai miei figli. Mica è Ottavio, un tipo proprio introverso, però Antonello gli ha fatto una buona impressione a tutta, anche alla 50, no? Detto, più di 30 anni lo conosco Antonello, perché sono simile, già le piacciono già. Le persone così, capito, ho pochi amici, cioè, però le persone come Antonello sono sempre sulle 10 dita, riprendi Antonello. Sì, esagerato, Zappa, adesso ormai faccio quella muletta con quell'Inter, 34 canali, ci manca la cosa, lo sai, da quello mio a questo qui, ci manca la piastrina del 34 canali di sotto, infatti, è stata di minaccia. Adesso guardo un po', io ho una piastrina qui, gliela metto, così lo faccio diventare 34 più 34. No, io altro lei, infatti, l'ho comprato che dava per i 34 canali, hai capito? Non lo so, io a me me l'avevano dato così, Me l'avevano dato così e l'ho acceso su 5, su qualche altro canale, te l'ho detto che ce l'avevo in macchina, ce l'ho anche modulato, quando modulavo già che salivo la punta di luce, l'apparato era quello, con l'M300, poi niente, non mi sono dedicato più di tanto, allora perché ti ho fatto vedere anche che ce l'ho quello da 400 canali che ho visto, e però in macchina io non me metto perché dove devo andare a modulare con la macchina, alla punta di luce, in estate ci potrei andare, però l'inverno su TT ha già che preso qui in camera, figurate che me ne trovo in macchina, l'ho usato solo per fare delle prove in macchina, per vedere i padri, ho modulato con Antonio Pombolo, con Falchetta, mi chiamano discretamente, poi me l'hai fatto maggiorare tu, hai visto il segnale come fa, se lo metti sul water e tu mi farei sapere anche quanti quanti esci, io penso un water ne dà sicuramente. Ok, detto questo io lo rilascio, aspetta, Mario Marzi ancora sta facendo, Mario. Antonio Pomolo rilancia il mio carissimo Antonio che finalmente riesco a ascoltarlo e lui Antonio ce la sta mettendo tutta perché io arrivi per conversare con me a tu appena con l'antenna vedi è capace adesso ho avuto tante spese ho buttato me non lo so però se ci metto un barrasone come quello che ho visto l'Antonello arrivo e vedrai che non ce ne sono più problemi e Gianni me l'ha detto un sacco di volte perché soldi li ho speso però che quando la prendo che vedo che una cosa adesso anche Antonio ha detto pesa un sacco di... che è quello, quello che detto io, desisto di comprarla, riprendi Antonio. Antonio, lo senti a capri due? Adesso non più. Mi ha aumentato il QRM, poco fa riuscivo a sentirlo perché... c'è bisogno di spegne, adesso non più. 2 minuti di bianco per parlare, arrivo subito. Capri positivo. Capri 2, non ti ascolto adesso Antonio perché è stata riaccesa la televisione, quindi mi sale il QRM. Ok, io quando la io in due mamma televisione di Diana Bago, capri su baracchino, e non me lo fa disturbare nessuno, era proprio piantato in cucina per fa, e televisore ne ve ne farò poco, anche perché faceva interferenze qualche volta, era ancora bianco nero quando poi, e va bene, ma non tanto il caso non c'era mai che faceva i turni e la facevo da pallone. Riprendi per fa! Il capo, lui la televisione, c'è l'altra stanza che... Ho usato il nonno però il QRM quando è acceso, molto QRM. Che lo so che fa, non mi ricordo più la volta, quando accendiamo il pompe, non mi ricordo che andava a disturbare, ma questa ce l'abbiamo risolto. Il primo periodo c'è stato sul televisore qualche altra cosa, che accendeva il pompe o la radio che c'era la mattina che quando mia moglie faceva le pulizie e accendeva la radio che avevamo, il pompe faceva, guarda, un rumoraggio di... entrate in queste... o nella televisione, non mi ricordo adesso. Bene, rilasciamo a Antonello, vai Antonello. Dimmi, io sono qua. Non ci sono problemi. Ma sì, comunque... stasera mi sono dimenticato di nuovo di darti il cambio di alimentazione, mi trovai, c'è ronca mia, ne era segata, Antonello. Hai capito? L'ho detto la macchina, guarda, c'è il capo di alimentazione di quell'apparato. Ehi, capo, ricordati quella lotta lì, giovedì, anche nel capo di alimentazione, così glielo do, la parola. No, te lo devo dare, Antonè, per forza te lo devo dare, se no come, non li puoi dare quello del baracchino tuo. E dentro che è tutto oggetti, poi siamo andati a rifornire lì, lì, capo di... scusando quello che ho detto, la duca rovescio. E capito, no, e lì Antonio c'è solo quello della genesina, io non sono la genesina, l'ho fatto perché mi serve a me, quello lì. L'avevo recuperato, no, l'ho recuperato, ed è come si chiama che c'ho del coso di emergenza di mettere in moto la macchina, quel coso giallo che ho portato a città mercato. E non sapevo dove trovarlo, l'ho staccato da lì, ma il capo del baracchino è quello come hai detto tu. E bene, bene, bene, vediamo Giuseppe se in questi 2 secondi che ha detto di bianco, 2 minuti, ho capito bene, sono passati e io mollo la portante, poi riprenda il microfono che vuole riprendere. Capo, Giuseppe non è ancora tornato. Adesso ti si sente almeno, vai, adesso vai bene, quasi bene, dai. Andiamo bene quando è così, non è che stai neanche male male. Segnale ancora bassino, ma va bene, adesso la radio si può ascoltare benissimo. Va tutto bene. E vabbè, quando puoi, quella volta lo fai. Piano piano. Trucca trucca sempre andati. È importante arrivare per fare, io già glielo voglio fare, mi ha tolto l'ho visto sotto il tavolo che c'è l'RG8 arrotolato e quindi posso sollevare ancora. Quello che fa la bottiglia cerca di eliminarlo, fa girare dentro la camera. E cosa devo fare a tolto a farlo dritto così? Ehi, fallo girare dentro la camera, non lo so, ma dove vuoi solo tagli. Ah, vabbè, tagliarlo non ti puoi tagliare, tanto di sollevare il palo. Quando sollevi il palo ci mettiate la roba, te lo potete tutto sopra. E infatti, non lo voglio tagliare per quello, Antonio, perché mi serve, quando sollevo il palo poi, da fare di unzioni, non mi piace, e questo è proprio di fini RG8, E appunto per quello, non tagliarlo, lascialo così. Ok, perfetto, e qui però come non vuole la scena dove lo parlo, vuol dire che già sbatte. Allora, forza Gianni, bisogna che io qualche giorno mi letto con Marcolino, quando si dorme a dare il colpettino a Gianni. Gianni, sveglia! Rientrato, tornato alla base, K. Ma sì, che fa? Io ho detto che mi metto d'accordo con Marco, con il figlio di Gianni, quando dobla, quando si addormenta, a dargli un colpo. E K, il tuo cugnato però, una di quelle mazzette da 10 kg, ogni volta che si addormenta un colpo sul pollicione, tiene. No, Pierpa, va bene che quel mazzolo di gomma che c'è in garage, e anche quello, già fa male anche quello, già. No, fa più male quella mazzetta che c'è in magazzino in garage, c'è chi. Ok, no, capita a me, adesso voi non ci credete, voi, ma a me, adesso no, perché molte volte io, Pierpa, adesso sono da parecchio, molte volte io, dopo cena, mi addormentavo sul tavolo, così, come niente, e mia moglie all'arrivo, mi addormentavo e se mi trattenevo che non mi sveglia sul sabato come una cosa da non credere. Adesso, Giuseppe, dico un'altra cosa, poco fa quando sono andato a rispondere a Capri, c'avevo il raggio elettrico in mano, ho preso il raggio elettrico per rispondere e mi sei scappata la risa. Rientrato. Azzarola, Azzarola. Alla grande si è andato allora, ecco perché non ti ha sentito poco fa. Ciao Mario, no, adesso me la stavo rendendo la sopra. Oggi avevo la gioia ancora in mano, invece il pene la gioia lo sono portato alla bocca e l'ho messo anche in funzione. Allucinate, riprendi Mario. Cosa dici? Dai, abbaitami. Ui, ui, a pigliare un rasoio, ma microfono, nuda, nuda, vabbè, ma sono cose che capitano. E come io qui molte volte, siccome ci sono tanti microfoni, no? E molte volte sbaglio a prendere il microfono, piglio quello della radio che è spenta, KK. Succede, succede, non è niente di grave. Ma quella che succede sempre più bella e più spesso è che cosa del più rumore si dorme col microfono in mano e molte volte ti mette la portante e lui si dorme. E poi si sentono le molle. E appagappa. Come dice una greca, le bollicine. Cappa di positivo, ma facciamo riprendere Giuseppe per vedere se a lui anche riescono le bolle. Riprendi Giuseppe. Cappa di positivo Mario, Giuseppe sempre presente, sempre qua sul 21, bello arzillo, beh arzillo insomma, non esageriamo, ma deve avanno. E niente, io c'era un tantino più vicino di voi e devo dire una cosa, chi è sul raggedumbe? Gappa, vabbè, là. anche lui c'ha i suoi disturbi, poverino, e purtroppo tocca lavorare. Cappa Mario, dai, già va bene così, ci mancherebbe altro, uno quando è stanco è giusto anche che si riposi. Gappa. Adesso domani mi arriva Gigetto, quando partite la mattina vi faccio compagnia e voglio vedere se arrivo oltreoceano. Sì, ci mancherebbe altro che non arrivi lì Mario. Tu non cantavi tu a chi può darsi che a te ti succedesse rubare a chino, eh? Vai tranquillo, due estintori in cabina, cappa. No, la faccio sentire. No, tu non lo potrai mai sentire, perché me lo sto facendo, me lo sto rifacendo portare, perché la mattina accompagniamo a Domenico. Anzi, Domenico stasera non si è fatto sentire, vuol dire che non ha viaggiato stanotte. Niente, Vulcano, Gippone e tutta la compagnia, capito? Voglio vedere se dove arrivo con l'oggetto. Io tra le 11 di mattina presto presto. Cappa alle 5 del mattino, così non disturbiamo nessuno, perché la sera, attendendo quello lì, puoi recare disturbo ad altri e non va bene. Vabbè, un passaggino, perché lo volevo sentire, aveva arrivato. E cosa vuoi vedere arrivare? Cazzo, abiti a due passi da casa mia. Arrivo, se vado a quattro giri di svita che andate a Dughisso. Se la ride, mi dice. Andate, riprende vela. A chi ha detto? Mi piace che allora che mi dico si fuori. Kappa, ma... Io sono sicuro, guarda, io lì non ci sono, ma sono sicuro che gli sta arrivando a fondo scala, davvero, perché purtroppo siamo vicini. Se vai a guardare più o meno in linea d'aria quanto ci sarà, 200 metri ci sono. Pochissimo. Vedi bene, così che, niente, là, no, invece con i camionisti è diverso, perché loro, ripeto, così come sono adesso, senza usare niente, li accompagno sino a Macomè, figurati, se con Gigetto non li accompagno, almeno sino a Urità non li dovrei accompagnare. Ma se non adesso senti tu a loro? A Coso già lo sento, a Vulcano già lo sento, Vulcano quando mi molla a me lì all'incrocio di Morole mi dice di scusarlo, però ci sono le sovramodulazioni dei colleghi che sono vicino a lui e no, dice che non mi sente forte e giustamente gli altri mi calpestano, però stiamo parlando al bivio di Morole, non è che stiamo parlando lì dietro l'angolo. Capo, perché l'aiutino che non si riesce ad andare più, è capo di positivo, me lo sto facendo portare solo per provare quello lì, poi, cioè è una curiosità che mi voglio togliere, tutto qui. Infatti, io lo farei su quello, la curiosità, Giuseppe, dove non ti stai, no? Negativo, negativo, io sono sempre qui che ascolto, però tra penso una decina di minuti di prendere anch'io la strada del riposo. Sì, se per quello la prendo anch'io fra 10 minuti la strada del riposo. Ci lasciamo a Capri 2, avanti in Capri 2. E ok, anche io, hai quasi attaccato, anche io riprenderò tra 10 minuti la strada diciamo girare la manopola e spegnere il tutto, in quanto la 50 mi ha già dato voce, ha detto fra un po' ho detto spegni, che andiamo tutti a letto perché domani c'è anche la scuola, il ragazzo deve alzarsi presto per prendere il pullman per andare a scuola, tutto lì, e quindi non è che vi possa trattenere oltre. Riprendi Mario. Kappa, tutti dobbiamo lavorare e tutti abbiamo diritto di riposare, non molto, ma quelle poche ore ce le dovremo riposare lì in Sicilia sul letto, kappa. E purtroppo è così, e va bene, riprendi vela. Ecco, la solita ricerca del mic giusto. Vi siete sovramodulati? infatti, attenzione. Caspita, adesso sento a Capri 2, adesso lo sento perché c'è il canale pulito. Speriamo che nuovamente non ci sporchi accendendo il televisore. Avanti Capri 2. Ehi Antonio, grazie, c'è anche Antonello comunque in frequenza, non ci dimentichiamo che c'è buon pugno, e rilanciamo subito il microfono a te, Antonello, riprendi. Ciao Mario, saluto liberato. Ah, Pompufo, che c'è di tu non lo sapevo, Che c'è di anche tu non lo sapevo, e andrà bene comunque, ben entrato nella frequenza. KK, e beh, cosa tutto hai combinato? Sì, niente. Quindi divertendo ti sto un pochettino a fare qualche cosa. Solo che adesso non c'è più un cazzo, quindi me lo faccio domani il resto. Domani mattina. Andrà bene, d'accordo così. Riprendi Vela, che poc'anzi il tuo grenghiero ti ha tutto quanto calpestato. No, è lui che stava strappando. Strappando? Sto anche strappando adesso. Dai, io non stai strappando, sta andando bene. È lui che ti ha calpestato, perché io ho rilanciato a te e ha parlato lui dicendo che sentiva Capri 2. KK, andrà bene, riprendi tu Vela. Ehi, a capo, ho già ripreso. So che forse ci siamo incrociati. Ho detto, stavo strappando, non era lo strappo, era questo, guarda. Hai visto? Era sempre il rasoio. Ecco che cosa era, perché me ne sono accorto. Sì, adesso che pulito qua, adesso che pulito non sento più QRM né niente. Capri 2 qua, Santiago 3. Non ci ho mai messo così, invitami a farmi una barba, la sto facendo a pezzettini da un minuto all'altro. Per rispondere, Giuseppe, oggi stanotte finisco la barba alle 6 del mattino, giusto giusto per uscire al lavoro. Stai innescando Giuseppe, stai innescando. Tutto nel mio 144. 4 ad estendermi le lucicine. Dai, intanto 10 minuti sono passati, sono le 23. K di positivo, buonanotte a tutti, sogni d'oro e buon lavoro per domani. Ce la riascoltiamo. K, passo e chiudo. Ciao ciao. K, vai, vai. 244, buon tutto, buon proseguo di serata, buon lavoro per domani. Ce la riascoltiamo tutto domani. Ciao ciao. Buonanotte, vai Giuseppe. Papa Mario, buon 144 e buon riposo, dai, buon inizio di settimana e ce la riscontriamo alle prossimine. Ciao Mario, avanti e bombolo. Ciao Mario, buonanotte e buon 144, ce la risentiamo tutta domani. Ciao ciao, alle prossimine, ciao ciao. Avanti Capri. Ok, saluto Mario, diciamo, vi auguro un buon 144, un buon inizio di settimana e un buon punto per domani per il resto della giornata. Ci ascolteremo semmai domani sera, se sempre che ce ne sia voglia, io ce l'ho diciamo in casa a portata di mano e quindi rimane sempre in quel ricchis. Ok, detto questo anche io faccio la stessa cosa di Mario perché l'ho annunciato già da poco fa che l'ora è tarda e bisogna spegnere anche per non disturbare gli altri. E detto questo rimetto il voto a Giuseppe, ascolto il finalino e poi chiudo. A te tornato Capri 2 ti rimette il cambio, vai. K, Capri 2, e buon 144 anche a te e naturalmente buon inizio di settimana per domani. E ci sentiamo presto, dai Capri, e su con quell'antenna, ok? E vai vela per Capri 2. Ok Capri 2, super salutore, dai, buonanotte, buon 144, buon trabacco per domani. Mi pare che poco fa comunque c'era anche Antonello, che volare voleva salutare sia Mario che a Capri, avanti Antonello se ci sia ancora, cambia. E a Capri fa salutare anche per sentito, poco fa mi sono ritirato i salutati che stavo facendo cosa e quindi mi sono distratto. Buonanotte Capri 2, ce la risentiamo domani e le prossime, ciao ciao. Adesso riprende Tornado per il suo 144, signori. E Pierpaolo, Antonio, Antonello, buon proseguimento a tutti, buon inizio di settimana anche a voi, dai, una serena notte e ce la riascoltiamo tranquillamente domani. Buonanotte a tutti, e Giuseppe chiude qui le trasmissioni, 11.05 e va fin troppo bene, dai, buonanotte a tutti. Brava Giuseppe, 144, buon trabacco per domani, 73-51, non venga anche 73-51, sono che baci, vuol dire, buon tutto, ce la riascoltiamo domani. Anche da parte mia Giuseppe, dai, ce la riascoltiamo domani alle prossime, ciao ciao ciao. Bene, bene, ciao Antonio. 73 anche a te, dai, ce la riascoltiamo, poi 144. Via ciao, via pace, ci sentiamo le prossime, comunque il tipo tutto allora. Capri 2 ti saluta, è la quale frequenza, ciao, ciao. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte.